professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascara, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Volte a Cruciani darei un pugno in testa per quanto mi fa incazzare, ma altre volte l'abbraccerei per le cose giuste che dice. Carità, non saranno tutti così e non sono tutti così. Gli amici animalisti, gli amici vegani, non sono tutti così. Lo dico perché qualcuno mi attaccherà, e però. Dovreste vergognarvi, cari amici animalisti, cari amici vegani, cari amici che considerate gli animali alla stessa stregua dell'uomo, perché molti ne abbiamo sentiti nella storia decennale della zanzara, caro Parenzo, di animalisti. Certo, e molti ci hanno detto, sì, non esiste il buonasera in questa trasmissione, e molti ci hanno detto cosa? Beh, tra uomini ed animali non c'è poi grande differenza, anzi, te la ricordi quell'ex hostess dell'Alitalia, la signora Martani? Anzi, gli animali qualche volta non sono gli autori delle stragi, non sono gli autori delle guerre, sono migliori degli uomini, sono molto meglio dell'uomo. È una di quelle cose folli, no, che si dicono, eccetera. Beh, vi leggo solamente, molti di voi magari già lo sanno, quello che ha scritto una signora che si chiama Antonietta Meta, e siccome la stiamo cercando da oggi pomeriggio, e spingo tutto il popolo della zanzara, tutto il popolo della radio a intervenire e a contribuire alla ricerca di questa signora con i numeri di telefono, Wanted. Antonietta Meta. Le taglie della zanzara, la zanzara ha messo una taglia. No, ce ne sono altri oltre ad Antonietta Meta, che pare che si aggiri nel milanese, perché ci vorrei parlare, vorrei farle un piccolo... Una persona che si aggiri, no, vorrei farle quasi una criminale, sì, vorrei farle un piccolo trattamento. Sai che c'è stato il terremoto in Nepal, no, in questi giorni? Sei informato di questa 4.100 cosa? 4.100 vite. Esatto. Uno di fronte. Esatto. Ma non si può dire tragica, è una roba, dai. Una roba, esatto, una roba tragica. Tu, vabbè, sì. Ma una cosa, sì, ci sono 4.100 vite. Ma certo, ci sono i terremoti, da che mondo è mondo? Esistono i terremoti, no? Non ci si può. Non è che ti sei stupito di un terremoto che provoca 4.000 morti, ma al di là di questo. Allora, signora Antonietta Meta, terremoto in Nepal è una giusta punizione per un popolo che fa strage di animali. Da ricovero. Spero in una scossa più forte. Da ricovero immediato, devo aggiungere. Vabbè, da ricovero immediato è anche poco, secondo me, è anche poco. Io direi che dovrebbe subire un trattamento molto feroce questa signora Antonietta Meta, a base di carne, ma non sto parlando di sesso, ragazzi, eh. Cioè dovrebbe essere ingozzata di carne, secondo me. Ingozzata di carne, cioè proprio la punizione la è una settimana mangi solo carne pena e pesce. Dantesca, lei è molto colto, dantesca del contrappasso. Questa si presenta, questa signora che si chiama Antonietta Meta, come libera professionista, amante degli animali e contro la vivisezione. Siccome i nepalesi hanno una tradizione una volta all'anno, adesso non mi ricordo, no? Ma comunque hanno delle tradizioni di mattanza di vacche, quello che è. Allora dice: l'Italia non mandi aiuto, ne ha fatti anche parecchi di post su Twitter, no, di Twitter in realtà. L'Italia non mandi aiuti per il terremoto a questi fanatici bastardi, giusta punizione, il terremoto è troppo poco. Spero in una scossa più forte. Tanta carne per questa signora, tanta carne. C'è anche un'altra che si chiama Patrizia Nassetti. Patrizia Nassetti, hanno avuto la punizione della natura. Vabbè ragazzi, ma che bisogna fare con questi qua? Che bisogna fare secondo voi con questi? Ha pure una faccia gentile questa Antonietta Meta, dice delle cose terribili su quelli che hanno subito il terremoto, ma... Yeah. vedevo il Costanzo Show, no? C'era Sgarbone, a parte che praticamente è diventato una specie di Zanzara bis il Costanzo Show, ma al di là di questo c'era Sgarbi, ormai c'è un format preciso, Sgarbi e la telefonata. Cioè gli autori, quelli che sono del Costanzo Show, hanno trovato un piccolo format. Cioè Sgarbi che risponde al telefono e Costanzo che si incazza perché non mi possono dire che è tutto casuale. Ma va benissimo così, eh? È molto traumatizzante come situazione. Quindi è ovviamente... Scusa, stiamo ascoltando una donna che ha perso una figlia di 9 mesi. Voi avete il dovere di star zitti. Chiaro? Il dovere... No, se lui parla, voi non rispondete, per cortesia. Non si capisce. Cazzo, non fa niente. Te lo spiego dopo, ma stai zitto adesso. Parla più forte. Parla più adesso forte. Stai zitto. Oh. Se non si capisce che te rompere i coglioni. Non si sente. Basta. Non si sente. Se non applaudite si sente. Vostra cugina. Se non sento un cazzo. Chiaro o no? Mettiti l'apparecchio. Non mi per i cazzi miei, andate a fare il culo. Mettiti l'apparecchio. Mettete l'apparecchio se non senti. Ecco fatto, basta. Abbiamo liberato un posto, non fare niente. Ma com'è la voce di Costanzo? Qualcuno... Abbiamo liberato un posto, non fare niente. No, ma qualcuno la deve imitare, la voce nuova di Costanzo. È una voce ormai totalmente cambiata. Tutto qui, una voce così spettacolare, spettacolare, perché sempre Costanzo è. Allora, l'altra cosa assurda che è successa, che ho visto in televisione, è stata la vicenda Coccia Pezzopani. Non ce la faccio più, perché mi stanno simpaticissimi, no? Il duo, la senatrice del Partito Democratico e il suo toy boy, il signor Coccia. Ma la cosa che non posso sopportare è quando dice, per esempio, la Pezzopane, cercano i titoli di giornale su di noi. Ti giuro, dice così. Cioè, vanno dalla D'Urso a raccontare questa meravigliosa love story, totalmente finta, secondo me. Ma comunque totalmente inventata, usa e consuma dei giornali, ma va benissimo, fa parte del famoso showbiz, eh? E poi la Pezzopane, senatrice del Partito Democratico, vorrei sottolineare, senatrice del PD, vecchia, come dire, una di quelle che bacchettava Berlusconi sui suoi costumi sessuali, ma questo lo aggiungo così, cioè senatrice del PD, dice cercano i titoli dei giornali su di noi, ma dai, su. In questo momento speciale, e parlare di noi e raccontare magari che Simone ti ha fatto una telefonata o ha mandato un messaggio, subito fa guadagnare i titoli dei giornali. E questo un po' mi mette amarezza, ma nello stesso tempo non può... Allora, io non ne posso più di ministri degli interni, presidenti del CONI, politici di vario genere che pontificano sulla violenza nel calcio. Cioè, sono anni e anni che se ne parla, nessuno prende provvedimenti definitivi e concreti, per cui basta parole. Ho sentito il presidente del CONI Malagò dire dobbiamo prendere a modello la Thatcher. Ma ragazzi, ma sono passati 20 anni, 20 e 30 anni e ancora non vi siete adeguati. Cioè, ancora vediamo le scene di pullman come quello della Juventus preso a calci e a sassate davanti alla polizia, è questo che mi ha fatto effetto, davanti alla polizia con i poliziotti inermi fuori dallo stadio e le bombe carta allo stadio. Ormai non le fanno nemmeno in Argentina le bombe carta, solo in Italia riescono a passare le bombe carta. Criminali. Dai, su. Criminali. Maurizio Zamparini è con noi. Maurizio, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Senti, ma Mauri, ma non te sei rotto i coglioni di sto calcio? Cioè, Completamente, ma non del calcio, di quelli che pontificano sopra il calcio. Di quelli che hanno fatto i tornelli, di quelli che hanno fatto del nostro calcio una cosa infame e non hanno punito, come ha fatto la Thatcher 20 anni fa, io 20 anni fa lo dicevo, non hanno punito i pochi delinquenti che ci sono nello stadio, che hanno l'impunità e loro chiuderanno la curva di Torino, così penalizzeranno il 99% delle persone per bene che va in curva, ma quell'1% che ha fatto quelle violenze non pagherà. Ecco quello che non va nel nostro paese, punto. Però scusami, non servono fare leggi nuove, tornelli, toglierci la libertà alle persone per bene, bisogna mettere in galera i delinquenti, non togliere la libertà alle persone per bene. Vabbè, d'accordo, però i tornelli servono, i tornelli sono un po' serviti, non servono a niente, ci sono solo in Italia, vergognatevi quando dici che servono solo ma in Italia. Servono, e come, perché almeno sono un deterrente, no? Ma fammi ridere, deterrente, è la cultura del deterrente, solo in Italia li abbiamo, siamo diventati il paese del terzo mondo. Senti Maurizio, scusami, abbi pazienza, però tu non ti sei rotto i coglioni di questo calcio, no? Queste cose che succedono con questi adesso non si sa ancora. Allora, a Palermo io in 11 anni non è mai successo neanche un atto di violenza. Non è che sono stinchi di santo pure là, cioè, avranno... No, non hanno mai fatto niente e sono un esempio per gli altri, i tifosi del Palermo. Ma tu i biglietti glieli dai o no a questi qua del Palermo, della curva? No, assolutamente, ma gli ultras del Palermo sono solo tifosi, non vogliono i biglietti. Gli ultras del Palermo sono solo tifosi, devono sostenere la squadra, ma sono educati, sono 11 anni che li educo. Io la prima domenica quando sono arrivato io, arrivavano quelli del Cagliari e volevano insultarli e tirarli anche loro le arance. Io sono andato giù e ho detto: ragazzi, se voi tirate un'arancia, io come sono arrivato riparto e non mi vedete mai più. Loro sono un esempio adesso, si comportano come esempio per tutti. Li hai educati mai violenza. Li hai educati tu. Li hai educati tu. Tutti si sono educati da soli, è una questione di cultura. Vabbè, leggi speciali. Oggi adesso il presidente del Consiglio dice: non servono le leggi speciali. Beh, insomma, se tu trovi un parlamentare che ruba, cos'è? Fai le leggi speciali per tutti i parlamentari? Ho capito, ma hai visto questi qua che davano i calci a un pullman, quello della Juventus, e nessuno interveniva? C'è già un codice. No, ma certo. Se non fai i calci, uno lo arresta e lo mette in galera. E perché non lo fanno là davanti? Noi a un certo momento siamo, hai visto i poliziotti? Fermi. Allora, i nostri politici devono pensare a fare loro il loro dovere, a dare gli ordini che la polizia faccia il suo, i magistrati. Cioè, la polizia deve picchiare di più, dici? No, non deve picchiare. In Inghilterra, stadio succede queste cose qui, lo prendono, lo mettono in gattabuia, l'indomani mattina lo processano per direttissima e lo mettono in galera. Ma non esce la settimana dopo, si fa tutti i 6 mesi o tutto l'anno. Vabbè, questo dipende dalle leggi generali dell'Italia, diciamo. Ma ce l'abbiamo anche noi. Senti, non ma tu sei della vecchia. Sei dell'idea di fare le celle dentro lo stadio? Sicuramente, come in Inghilterra. Celle dentro lo stadio. Scusa, se uno delinque, se uno dà un cazzotto a uno, se uno ti tira una bomba a carta, dove lo metti? Lo metti sul pullman? No, se viene identificato subito, certo. Ci sono le telecamere, abbiamo speso un casino di soldi all'interno degli stadi. Ci sono tutte le telecamere, se vogliono le individuano tutti. Guarda, io sono dell'idea che bisogna chiudere le curve per 2 anni, per 3, tutte, indiscriminatamente. Purtroppo ci rimettono anche quelli che non c'entrano niente. Chiudere le curve per 2 anni, metterci i bambini per 2 anni, come no? Ma non è vero. Come no? In Inghilterra gli hooligans li hanno messi solo in galera e le curve sono aperte e ci sono andate le famiglie. A Palermo io farò lo stadio nuovo e ci andranno le famiglie. Come lo stadio nuovo ci andranno le famiglie? Spiegami. Nello stadio nuovo, senza barriere, senza nessun tornello, ci andranno le famiglie, come in Inghilterra. Sì, vabbè, ho capito, ma resta il fatto che alcuni pezzi dello stadio sono dominati ancora da delinquenti, questo è evidente. Da altre parti saranno dominati da delinquenti. Allora devono provvedere a tirar via i delinquenti. Allora, eliminare tutti gli striscioni, non far entrare nessun botto, eliminare tutti. Sicuramente. Ecco, eliminare gli striscioni, prima cosa. Diamine! Tu metti uno striscione e viene arrestato perché c'è la legge che tu lo proibisce. Tu tiri un botto, viene arrestato anche c'è la legge che proibisce. No, lo striscione qualcuno dice no, qualche volta no, sono striscioni. Ma non va portato nulla dentro lo stadio. No, assolutamente nulla. Vanno portate le sciarpe come fanno in Inghilterra. Tutto, non va portato niente. Anche perché poi passa uno striscione normale e 10 invece di minaccia mafiosa, eccetera, eccetera. Questo è il punto. Un attimo solo che c'è il traffico e torniamo. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca, una cosa di una noia bestiale. Eliminatele, vabbè. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta La Zanzara. Ormai è tutto degradato. Siamo con il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, qui alla Zanzara, scatenato contro l'inconcludenza dei politici sulla violenza nel calcio. Alfano ha detto che dobbiamo liberare il calcio, non so, dai delinquenti, nessuna pietà per i teppisti. Ma abbiamo sentito troppe parole, caro ministro degli interni, troppe parole, pochi fatti qui. Ancora la gente porta dentro le bombe carta. Questa sarà un po' anche responsabilità di chi controlla, caro Zamparini, perché le bombe carta... Sicuramente, ma vedi, in Inghilterra ci sono dentro, pagati dalle società, sera. I controllori, che hanno la funzione come fossero dei poliziotti, hanno le telecamere e controllano. Ma non sa che se uno tira una moneta in campo viene prelevato e buttato e messo in gattabuia? È successo a un italiano di Vicenza quando ha giocato. Ma non ti Vicenza. Viene voglia di lasciare tutto dopo quello che hai visto? Di lasciare tutto, di mollare tutto? No, perché il calcio è una questione sociale, lo ama la gente. Il 99% della gente che va allo stadio sono brave persone. Il 99 no. Sì, il 99. 99 sicuramente, perché in Inghilterra ci vanno le famiglie, devono tornare le famiglie anche da noi. E noi dobbiamo, invece di dire i tornelli, non tornelli, fare il tutto per riportare la normalità in questo paese. Oltre alle celle dentro gli stadi, che hai detto, no? Celle, quando pizzi qualcuno, celle direttamente dentro gli stadi. E poi fargli fare 6 mesi di galera sul serio. Sei mesi, magari qualche volta di più. Chi ha tirato una bomba carta? Qualche volta di più, sicuramente. Ma in Inghilterra tu tiri una moneta in campo, ti fai 6 mesi. Sì, d'accordo, ma allora che gli dici? Hai fiducia, in questo ministro degli interni o no? Hai fiducia in questo? Io non ho fiducia in nessun politico di questi qua. Sono il dramma dell'Italia, sono i politici di professione che non fanno niente, pontificano ancora e voi li fate la cassa di risonanza, purtroppo. Ma noi che facciamo? Noi e poi fate il vostro mestiere, ragazzi. Ma noi non facciamo niente. Comunque facciamo. Sì, giusto, le celle negli stadi, è giusto, io metterei anche i leoni. No, beh, i leoni. No, ma non esagerate, non fate ironia per niente. In Inghilterra mettono le celle perché nelle celle ci vanno i delinquenti. Ma non li tengono lì un mese, li tengono lì quel tempo per portarli a processarli direttamente, no? Bisogna invece mettere noi, paura. Li mettiamo fuori il giorno dopo, DASPO, oppure dice i tornelli, ma se uno vuole portare le bombe carta le porta di notte, la mattina, i nostri stadi sono, per l'amor di Dio, li deve portare proprio quella mezz'ora. Comunque, che i tornelli ci sono in Inghilterra, quelli che tu dici, ci sono i tornelli in Inghilterra. No, non ci sono i filtraggi, i tornelli, ci sono i controlli sicuramente. Vabbè, ma anche in Italia formalmente ci sono, solo che poi ci sono i delinquenti che hanno i loro amici, no, che riescono a portare. Ma no, non è quello, non è con le. Senti, ma le se un tuo giocatore facesse quello che ha fatto Dennis, il giocatore dell'Atalanta, un pugno dentro lo spogliatoio, che faresti? Lo cacceresti dalla tua squadra o no? Ma sai quanti pugni si sono dati all'interno dello spogliatoio? Ah, nei, sì? nei dilettanti quando giocavo. Per cui dici, io non è così grave. Uno diceva un insulto alla tua mamma e tu gli dava un cazzotto. Cioè, non è così grave. Non c'era la risonanza che c'è oggi sui media, ma gli avrà chiesto scusa dopo. Bisogna vedere cosa gli ha detto quello lì. Non è una cosa da farsi, no? Però anche quello che l'ha offeso, hai capito? Vabbè, ho capito, questo ha dato un pugno. Dennis è un bravo ragazzo, l'ha detto anche il Papa, a fine partita, no? Ecco, se non c'era la televisione, non c'era nessuno, succedeva niente. Ha preso un cazzotto, l'altro gliene dava un altro, buonanotte. Dai, ragazzi, dai, fatti bravi. Ma non si può passare sopra queste cose, però, Maurizio. Sì, dai, ma dai, fatti bravi. Facciamo fatti bravi, noi facciamo fatti bravi. Non sono queste cose qui. Ho capito, quello da un pugno. Cose da cancellare. Quello da un pugno non è una cosa positiva. Ho capito, ma io sai quante scazzottature ho fatto, giocavano i dilettanti. Ma ho capito, ma è diversa la cosa. Quello nello spogliatoio gli dà un pugno in Serie A, un pugno, che esempio è. Gli avrà detto tua nonna, eccetera. Ho capito. Vabbè, passiamoci sopra, avanti. Senti, vabbè. Ma io non ho capito. Tu hai un tesoro dentro la squadra, ambito ormai da tutto il mondo. Questo Dybala ha messo la testa a posto, innanzitutto, sti procuratori. Ma hanno messo cos'è la testa... sto telefono? Cos'è? È il suo telefono. Non si può fare la trasmissione in questo modo. Basta, Maurizio. Chi è che c'ha il telefono? Ma tu, sarà tu, il telefono di casa. Ma di Dio, avete interferenze voi. Vabbè, ma quanto vale alla fine? Dimmi la verità, non può valere 40 milioni, 50 milioni sto ragazzo, dai, è troppo giovane, non ha dimostrato un cazzo fino adesso sto Dybala, dai, Dybala, come si chiama? Non può valere quanto chiedi tu, o no? Non meriti risposta. Ma... scusami, abbi pazienza, è un ragazzo giovane, ha fatto un anno buono, un anno e mezzo, 50 milioni, scusami, mi sembra... Ma secondo te Messi a 21 anni cosa valeva? Ma no, ma Messi a 21 anni era già. No, Messi con 21 anni era come Dybala. Ma no, come Dybala, uguale. Ma secondo te veramente può diventare come Messi sto Dybala? Lui è il nuovo Messi, sicuramente. Sicuramente, ma dimmi la verità, facciamo un po' di percentuale. E credimi che io di calcio capisco sul no, serio. No, quello sicuro. Ma diciamo la verità, diamo un po' di percentuali. Juventus che percentuale ha? Dybala. Non te le do queste cose. Dai, una percentuale. Dai, offendo tutti gli altri giornali che li mando tutti i giorni a quel paese. Vabbè, a me è il più simpatico di tutti, ma appunto. Non te lo posso dare. Allora, ma chi è il favorito? Chi è? Diciamo il favorito. Chi lo paga di più? Vabbè, chi lo paga di più è quello fai bene, è tuo. Che te quindi frega? Chi ha il portafoglio più gonfio? Il Paris Saint Germain, no? I francesi hanno il portafoglio. Il Qatar, Qatar, ragazzi. Qatar, i francesi. C'hanno un cazzo i francesi, hanno tutto il Qatar. No, il Qatar, sai, un miliardo al giorno di gas e petrolio, e sono in 400.000. Ho capito, però fino adesso non hanno combinato una mazza, a parte vince qualche campionato che vincevano pure prima. Il campionato, sono arrivati in quarti di finale. Vabbè, comunque, tu perché hai detto che preferiresti il Napoli per questo ragazzo? Perché De Laurentiis mi è simpaticissimo. Perché ti è simpatico De Laurentiis. Cioè tu alla fine se va a Napoli sei contento? Sì, e anche per i napoletani, che diventa come Maradona. Che diventa come Maradona, però non c'ha i soldi. De Laurentiis non ce l'ha, non ce l'ha 40. Ma De Laurentiis ce l'ha, perché non ce l'ha. 40 milioni ce l'ha, dice, a tirare fuori De Laurentiis. Ma sicuramente, l'ha peccato 70 ma da Cavani, magari. 40 milioni, cosa fai? Ma 40, con 40 ma milioni. Ma poi la pagano in 4 anni, mica cash. Per cui... Vabbè, ma che ci fai con 40 milioni poi? Dai. Poi che ce fai tu con 40 milioni? Devo comprare altri giocatori per fare la squadra. Sì, ma comunque, ma ragazzi, ma non vale venduto, 40 sto ragazzo, dai, venduto, su. I soldi non sono miei, sono del Palermo Calcio. Vabbè, e servono alla squadra. Io non ho mai, ho solo messo soldi nel Palermo Calcio, mai tirato fuori neanche un euro. Sì, ma quello lo sappiamo. Quant'è che ci hai messo fino adesso? Basta, sono fatti miei. Dai, me l'hai detto una volta. Quant'è? 100 milioni, quanto hai speso? 100. Più o meno. Croce. Occhio e croce, 100 milioni. Gioco a meno, perdere, meno male che non, meno male che non cacci erano, più. Erano altri tempi, oggi non li metterei più. Meno, crisi, ah, non c'è crisi che c'è. Ma che sei, ma meno male che non cacci più gli allenatori, non c'hai più. Cioè, quanti ce n'hai ancora Libro Paga? Uno, due ce n'hai? No, sono io. Basta, fine hai finito. Meno male. Non ci sono più soldi, caro. Ti sei dato una calmata, eh. Senza, non ci sono più soldi. Senza soldi hai resistito alle. Certo che dopo la sconfitta di ieri qualche tentazione ce l'ha avuta di pigliarlo, di dargli, no, un bel calcio nel culo, no? No, no. Beh, ti sei incazzato, eh. Succede, ti sei... Darci qualche calcio in culo, sì, ma però sai, anche la, ci vuole anche la fortuna, no? Ha sbagliato 4-5 gol, pazienza. Ma beh, però qualche calcio in culo ha avuto la tentazione di pigliare a calcio in culo qualcuno. Sì, come no, qualcuno sì. E chi? Chi in particolare? Il mio allenatore ieri ha sbagliato. Eri incazzato come una bestia. No, non sono incazzato. Ma tanto no. Ormai è fatta la salvezza. Ormai siamo a posto, no? Che ieri sono andati non per giocare a calcio, ma fare una passeggiata. Però comunque, dimmi la verità, la Juventus, Marotta l'ha detto, siete in trattativa, no? Con questo Dybala, come si chiama, Dybala. Ma loro sono i più decisi sul giocatore. Ma 40 ce l'hanno, non li vogliono tirare fuori i soldi. Ma ne hanno molti di più. Ma non li vogliono tirare fuori, mi sa. Vabbè, gli Agnelli sono Agnelli. Cioè, in che senso? È scuola Fiat, loro hanno la manina corta, hanno ragione. Come favorito a Napoli? Allora, no. Favorito nessuno. Favorito, chi c'ha i soldi? Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain in pole, diciamo. Però Paris Saint-Germain è quello che pagherebbe più di tutti. Però c'hanno, Platini si è inventato il fair play. Però suo figlio lavora a Paris Saint-Germain, per cui ma in che, il figlio di Platini. Se pigli 40 sei contento, sì. È quello che ho chiesto. Quello 40 sei 25? No, assolutamente. Te lo tieni? 25 te lo tieni o no? Sicuramente, sì. Vabbè, comunque. No, ma li prendo, ragazzi, li prendo. Ma non vale un cazzo, dai. Ci sono 25, sei squadre, 40 sei squadre non vale. Sopra. Sei squadre sopra. Vabbè, sei io squadre. Pensavo in facessi campagna a tutti, dava la percentuale. Adesso che hai detto così non ti do niente. ciao Maurizio, ciao. Ragazzi, ciao, caro, ciao, abbiamo ciao. Iniziato così, ci sentiamo dopo il giornale radio, è 800-24-00-24, la Zanzara. Volevo dire che la Zanzara è uguale a Radio Padania. Digital Radio Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale, è vero? Certo, con le trasmissioni in digitale la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il sole 24 ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. BMW Freeride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta La Zanzara. Sì, ma dai, fatti bravi. Allora ragazzi, è successo un fatto drammatico a Milano. Una ragazza di 41 anni è stata stuprata da un tizio che gli ha portato la pizza, no? E, tra l'altro, la cosa incredibile è che sembra che questa ragazza è scesa poi vicino al posto, davanti alla pizzeria, kebab, non so dove vendevano questa pizza, e il proprietario gli ha detto a questa ragazza: beh, cerchiamo di accomodare la cosa, cerchiamo di accomodare la cosa. La prima uscita di Matteo Salvini su questo, sai qual è stata? Castrazione chimica per gli stupratori, è una cura, non è una pena. Che aspettiamo prima di introdurre anche in Italia la pena, anzi la cura della castrazione chimica? Allora, mentre la politica italiana impazzisce sull'Italicum, più tardi avremo un ospite, caro Parenzo, su questo tema, il senatore, aspetta che mi avvertono, non parliamo di nessuno, mi avvertono di una cosa, aspetta, ecco. Pronto? Sì, signora Nassetti? Sì. Sì, salve, buonasera. Lei ha scritto un post, un Facebook in cui si parla del Nepal? In cui? Si parla del Nepal? Sì. Hanno avuto la punizione della natura, giusto? Sì. Ma come mai? Me lo può spiegare? Sì. Stiamo facendo delle verifiche. Pronto? Guardi, le dico. Mi dica. Lega bene la mia pagina di Facebook. La no, lega bene. No, l'ho letto. Ecco perché ho eliminato post Nepal. L'hanno avuto la polizia. No. C'è un post precedente dove c'è tutta la spiegazione. Sì, ma mi dia lei la spiegazione, perché non l'ho capito bene. Hanno avuto la punizione della natura, cioè se lo sono meritato, ma perché? Perché loro fanno un festival ogni anno che si chiama Festival Gandhi. Sì. Dove ammassano milioni di animali nei riti più cruenti. Sì. E allora? Per me l'animale e l'uomo è uguale. Sì. Però quindi sono stati puniti. Scusi signora Nassetti, gentile signora Nassetti, però sono morte 4.000 persone. Lo so. 4.000, più di 4.000 persone, tra cui dei bambini. Lei scrive che hanno avuto la punizione della natura perché ogni anno fanno un festival in cui ammazzano degli animali. Milioni di animali. No, milioni. Scusi signora Nassetti, ma lei non si vergogna? Non mi vergogno, arrivederci. Non si vergogna di quello che ha scritto? Amici miei, questi sono gli animalisti, gli amici vostri. Non siete tutti così, lo so che non siete tutti così. Però. Siamo ad alti livelli qua, Ecco, questa signora Patrizia Nassetti, che adesso richiameremo naturalmente, ha un bar a Ibiza. Ah, pure un bar. Dunque ci può ascoltare solamente, diciamo, in streaming. In quindi streaming. Adesso abbiamo chiamato Ibiza. A Ibiza, sì, un bar a Ibiza. Richiamiamo il bar allora. Beh, perché fino adesso non l'abbiamo chiamato, secondo te? No, scusa. Al cellulare. Sei un coglione. Ma come lo prendo il cellulare di questa Ibiza? Abbiamo chiamato il bar a Ibiza. Ma combini certi pasticci, tu, guarda. Ma sei una persona orribile, guarda. Ma Parenzo lo pagate voi per stare in trasmissione? Poco, sempre troppo. Beh, poco, insomma, dai, adesso con non esageriamo. Insulti che uno prende troppo poco. No, ma richiamiamo, no. Richiamiamo Ibiza, vi prego, richiamiamo Ibiza. Perché il bar, no? Ma sì, è certo, il bar, non ho ancora il cellulare. Sai quelle cose ovvie che uno dice, no? Il bar, no? Però vanno dette con autorevolezza, capito? Le riforme, no? Bottone Orange. Questa bassa, ma veniamo a cercarti ovunque! Veniamo a cercarti dappertutto! Dappertutto per le cazzate che hai scritto, capito? Pacificamente. Dai, pacificamente, sempre pacificamente. Molto pacificamente. Hanno fatto bene. Abbiamo avuto finalmente una voce, perché poi in realtà queste persone, spesso, di questo devo dare atto alla signorina Patrizia Nassetti, che è un animalista convinto, uno di quelle che ha scritto le cose che ha scritto sul terremoto, che di solito si tirano indietro le persone. Beh, certo, se l'avessimo avvertita che era una telefonata in diretta, se l'avessimo avvertita che magari era un'intervista, probabilmente non avrebbe risposto. Però chi se ne frega, finalmente abbiamo avuto una prova concreta, una voce, non solamente una cosa scritta, delle follie che pensano questi, che semplicemente perché c'è un festival ogni anno, per carità, non è una cosa bellissima, non è una cosa meravigliosa ammazzare gli animali, ma io non ci andrei a vedere questa roba, ma chi se ne frega, è un'usanza e gli uomini sono più importanti degli animali, gli uomini sono più importanti degli animali, se c'è un festival è un'usanza, va bene così, non devono rompere i coglioni questi qua. E poi che cosa c'entra col terremoto? Cosa c'entra con il terremoto? Dai, su! Ma se li mangiano alla fine questi animali che ammazzano in Nepal o no, secondo te? Se li mangiano oppure no? No, dici li ammazzano così, ma non lo so che cos'è quest'usanza, non ho letto abbastanza oggi, dai. Li mangiano anche, ma comunque è peggio quello che ha scritto. Ma questo non mi pare, come dire, indicativo del fatto che è giusto che siano morte 4.100 persone. Non hai visto questa qua, amica? Non ho avuto un attimo di esitazione. Vabbè, sentiamo come ci presenta la giornata il TG3. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Oltre 4.000 finora le vittime del terremoto in Nepal, ma potrebbero arrivare a 6.000, migliaia i feriti, milioni gli sfollati, mancano acqua, cibo e medicine. Sono 4 i morti italiani in Nepal, 2 speleologi del gruppo travolto dalla valanga sull'Everest e 2 alpinisti investiti da una frana in una scalata. Renzi scrive ai responsabili dei circoli del PD sull'Italicum in ballo la dignità del partito, la minoranza, mediazione ancora possibile, le posizioni no alla fiducia. Mattarella, sul lavoro bisogna invertire la rotta, troppi posti perduti, ognuno faccia la propria parte, alla politica il compito di combattere la corruzione. L'avvertenza Whirlpool, azienda e sindacati accolgono la proposta del governo, dialogo avanti senza pregiudizi, i lavoratori no a chiusure e licenziamenti. Il segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon con Renzi sulla nave San Giusto in missione nel canale di Sicilia. La priorità è salvare la vita degli immigrati. La bomba carta nella curva del Torino durante il derby per il PM confezionata dai Granata. Per la polizia invece l'ordigno è stato lanciato dai tifosi juventini. Mentre l'Italia, vi stavo dicendo prima dell'interruzione per quella meravigliosa telefonata con l'animalista Ibizenka che ha scritto su Twitter delle cose pazzesche sulla vicenda del Nepal, vi stavo dicendo che mentre impazza la discussione sull'Italicum, mentre Forza Italia non si capisce dove vuole andare, Berlusconi eccetera eccetera, il senatore, l'amico senatore Antonio Razzi ieri era alla partita Lanciano-Pescara derby abruzzese. Senti, guarda, è meraviglioso, è meraviglioso. Ovviamente, essendo un senatore eletto in Abruzzo, non fa il tifo né per il Lanciano né per il Pescara, ma usa queste parole. Razzi, per chi ha tifaso, ce lo può dire? Guarda, io per me andava bene tutte e due. Io sono della provincia di Chieti, sì. E mi andava bene il Lanciano, sì. Anche se vivo a Pescara. Io amo tutte e due, per me un bel pareggio andava preciso. Sì. Ero neutralmente a vedere la partita. Neutralmente a vedere la partita, la trovo un'espressione straordinaria. Beh, sì, quella è una materia di sua competenza. Ero neutralmente a vedere la partita e poi attacca l'arbitro. Razzi attacca l'arbitro. Sull'arbitro? Beh, visto che l'ha fatto lui, lo poteva fare pure io l'arbitro, perché ha sbagliato molti, ma molti casi. Ha dato certi cartellini che non serviva, specialmente l'ultimo, al posto di fischiare la partita va a ammonire un giocatore del Lanciano che non c'era nemmeno, indipendentemente, però visto che ormai mancava una decina di secondi, fischia la fine e è finito. Stupendo. Fabio da Milano, vai, 800 24 00 24, vai Fabio. Pronto, ciao a entrambi, scusate se voglio intervenire. Sì, ma togli il viva voce, ma è possibile ragazzi che non vi siete ancora messi in testa dopo sta roba? Tutti questi anni, basta. Togli il viva voce, parla ma bene, voglio telefonate pulite, dai Fabio. Basta. Quelle che fanno scuola. Vabbè, niente, dai, Giuseppe da Milano, forza. Giuseppe, no. Dimmi. Giuseppe, sei uno schiavista. In che senso? In che senso? Un dominatore, che sono? No, no, uno schiavista. Cioè, i migliori picchi comici di questa trasmissione si sono avuti quando Parenzo era libero di girare. I migliori momenti comici sono stati quando... I migliori momenti comici, sì, sì, sì. C'erano quanto Parenzo poteva girare, andava in pullman, andava a comprare. Ma ragazzi, se non va in pullman non è che ce la posso mandare apposta in pullman. Ascolta, da che l'hai obbligato a stare in un ufficio a Roma, sì, a fare trasmissione chiuso, è diventato un triste. Sì, sì. No, ma lui è diventato triste di suo, sì, non c'è sì, bisogno sì, di... No, ma è vero, no, è la tua prigionia, è la tua prigionia. Ma quale prigionia? Tanto ma che quella volta dici? Che è uscito e è andato da Auschwitz è rimasto chiuso dentro. Sì, ma capito, quello non l'ho fatto apposta però, amico mio. Cioè... No, ma perché non era più abituato. Uno perde l'abitudine, perde i colpi e quindi basta. Dovrebbero obbligarti ad aprire la trasmissione tutte le sere con un bel buonasera, fino a che non lo liberi. Sì, figurati. Raffaele Firenze, Free Parenzo from Cruciani. Raffaele Firenze, vai. Raffaele. Buonasera, buonasera a tutti e due, ragazzi. Dai, dimmi, ragazzo, dimmi. Vai. Volevo dirvi, volevo spiegarvi la realtà di questi ultra che vanno allo stadio. Sì, però dimmela dopo la borsa, caro mio. Abbiamo le informazioni su che cosa, ma che cazzo ne so. Tu ti devi fare le punture di risanamento del cervello. Zanzara. Ero neutralmente a vedere la partita. Hai visto quella scena incredibile di un ex banchiere, un uomo che ha una certa rispettabilità, come Corrado Passeri? Io dico sempre che Corrado Passeri dovrebbe trasformare il suo nome in un partito politico, cioè Lista Passera, Forza Passeri, invece Forza di Passeri, scegliere sì. quell'assurdo nome Italia Unico, quello che è. Ma lasciamo perdere questo. Non è nello stile di Passeri. Però va bene, però attirerebbe molti più voti rispetto a quelli che ha, che sono pochissimi secondo i sondaggi. Attirerebbe dei malvissuti come te. Cioè, no, ma un sacco di voti. Forza Passeri. Sarà meglio Forza Passera o Italia Unica? Scusa. Se tu dovessi scegliere così al buio, avessi solo due partiti tra cui scegliere. Al buio, se interrogato, sicuramente Forza sì. Passera, dai, diciamo la verità, Forza Passera. Senza dubbio. Italia Unica, sembra un supermercato, una cosa del genere. Ma comunque lasciamo perdere, sennò poi si incazzano gli amici di Italia Unica. Amici, insomma, per modo di dire, io non ho amici. Ma lì con quel cerotto imbavagliato per la legge per l'Italia, come il signor una Passera. Mezza pannellata, una mezza pannellata. Ma quello le può fare pannella ste cose, non un banchiere, un ex banchiere come Passera. Tutto imbavagliato per protestare contro l'Italicum, la grande battaglia dell'Italicum. Dicono che non c'è più la democrazia se passa l'Italicum. Siete patetici. E a me non piace l'Italicum, mi fa schifo come legge elettorale. Però, amici miei, che muoia la democrazia è veramente una cosa ridicola, eh. Passera, comunque sentiamo Passera impannellato, diciamo. Anche in piazza per parlare di un colpo di mano pericolosissimo. Noi siamo fortissimamente contro una legge elettorale che mette nelle mani di un solo partito, ma soprattutto di una sola persona, tutto il potere. Ora, siccome la legge elettorale penalizzerebbe Italia Unica, fanno la battaglia contro l'Italicum. È penoso, dai. Ma comunque lasciamo perdere, fa parte della politica, del gioco della politica. Sì, ma è normale, no? La legge elettorale è sempre per cui così. Chicco Testa, sente come gli risponde, signora Chicco Testa. Corrado Passera, no? Col bavaglino, che canta l'inno nazionale, eccetera, eccetera, e che dice che stiamo per entrare in una dittatura, è onestamente una persona che secondo me ha perso il senso della misura. Beh, a dir poco ha perso il senso della misura. Ma vogliamo risentire la telefonata che abbiamo avuto pochi minuti fa con una animalista di quelle che si scatenano su Twitter scrivendo delle cose incredibili sul terremoto in Nepal. Abbiamo già letto di Antonietta Meta, sterminio di animali per religioni, il terremoto è troppo poco per questa gentaglia, no aiuti, capito? Spero in una scossa più forte. Ma sentiamo quest'altra, dalla sua viva voce, Patrizia Nassetti. Pronto? Sì, signora Nassetti? Sì. Sì, salve, buonasera. Lei ha scritto un post, un Facebook in cui si parla del Nepal? In cui? Si parla del Nepal? Sì. Hanno avuto la punizione della natura, giusto? Sì. Ma come mai? Me lo può spiegare? Sì. Stiamo facendo delle verifiche. Pronto? Guardi, le dico. Mi dica. Lega bene la mia pagina di Facebook. La no, lega bene. No, l'ho letto. Ecco perché ho eliminato post Nepal. L'hanno avuto la polizia. No. C'è un post precedente dove c'è tutta la spiegazione. Sì, ma mi dia lei la spiegazione perché non l'ho capito bene. Hanno avuto la punizione della natura, cioè se lo sono meritato, ma perché? Perché loro fanno un festival ogni anno che si chiama Festival Gandhi. Sì. Dove ammassano milioni e milioni di animali nei riti più cruenti. Sì. E allora? Per me l'animale e l'uomo è uguale. Sì. Però quindi sono stati puniti. Scusi signora Nassetti, gentile signora Nassetti, però sono morte 4.000 persone. Lo so. 4.000, più di 4.000 persone, tra cui dei bambini. Lei scrive che hanno avuto la punizione della natura perché ogni anno fanno un festival in cui ammazzano degli animali. Milioni di animali. No, milioni. Milioni. Scusi signora Nassetti, ma lei non si vergogna? Ma anche fosse. Ma non si vergogna? Non mi vergogno, arrivederci. Non si vergogna di quello che ha scritto? Sempre 800 24 00 24. Incredibile questa telefonata in cui dice: no, non mi vergogno, ammazzano milioni di animali. Pazzesco, dai. Raffaele da Firenze. Raffaele da Firenze. Eravamo con Raffaele da Firenze, che mi sembra di ricordare un autista di autobus, non so di che tipo, che porta i tifosi in trasferto, non so dove. Raffaele? Bravissimo, bravissimo. In tutta Italia e anche Europa. Ma succede. Per conto di chi, scusa? Quelli della Fiorentina, per dici? Conto di sbagliate squadre, Fiorentina, le squadre sono state molte, però non tutti i tifosi, ma molti partano già briachi marci da casa, con qualcosa dietro che possa danneggiare, si fanno le canne a bordo dell'autobus, sì. qualcuno pippa cocaina, anche se vieni scortato, sì. Sei obbligato a fermarti dove la stradale ti decide di fermarti. E che succede? Quando uno è ubriaco gli scappa da pisciare, detta male, pisciano nelle bottigliette di plastica che poi si lasciano sull'auto. Vabbè, ma Raffaele non ci dice niente di nuovo, per carità, va bene che ce lo racconti. Io ho capito, ma quello ti dico io, quando vieni scortato e tu gli dici guarda io sto male, perché io sto male, non ce la può più a guidare in queste condizioni, fai qualcosa, la risposta che ti viene data, devi arrivare allo stadio, capito? Quando te arrivi a Roma Nord per la partita Fiorentina-Napoli, finale Coppa Italia l'anno scorso, e sei costretto a stare due ore e paralizzi tutto, vuol dire che i controlli non partono a monte. I controlli non partono certo. A monte, la stradale, la polizia, chiunque. A voi essere scortato se questi qui dietro poi hanno armi. Ma scusa, ma tu quando guidi questi autobus, che cosa vedi al di là di queste cose che ci hai detto? La gente che si droga, la gente che si ubriaca, eccetera. Ma se arrivi allo stadio e c'è il rischio che tu finisci in mezzo a una sassaiola. Vabbè, quello d'accordo, ma questi qua che si portano dietro pure armi, tu le vedi? Armi nel senso coltelli? No, armi no, ma lame, spranghe, qualcosa viene infilato, capito? Ma le hai viste queste robe o no? Ma le vengano nascoste, non le vedono i poliziotti, le vedi quando scendi, Vabbè, per cui Raffaele, che bisogna fare secondo te? Bisogna mettere che i servizi d'ordine, polizia, carabinieri, vengano fatti pagare alle squadre in maniera che gli italiani non spendano un euro di tasse, perché lì sono tutti i soldi nostri, mia, tua e di Parenzo, e si paga le tasse. Va bene, ho capito Raffaele. Gianni da Terni. Raffaele, grazie. Gianni. Ciao Crucia. Dimmi. Senti, io seguo un economista abbastanza famoso, no? Che si chiama Eugenio Benettazzo. Sì, Eugenio, come no, amico di Parenzo, ex amico di Parenzo. Amico di Parenzo, abbiamo scritto due libri insieme. Sì, però non parlare sopra quello, se no si capisce una mazza. Dai, Gianni, dimmi. Vabbè, va bene, non ti alterare. No, senti, ma non mi piacevo con te. Dai, vabbè, dai. Allora, io oggi ho trasalito leggendo il suo. Perché? Suo che ha scritto Benettazzo? Ha scritto, ha pubblicato un filmato relativo a questo rito indù del sacrificio animale e ha scritto. È arrivata la punizione divina. Io veramente non ha scritto questo Benettazzo? Aspetta, ha cancellato il post non l'ha nemmeno tenuto, perché poi i commenti non erano molto positivi, erano molto... Vabbè, che ti risulta, Parenzo, che Benedazzo sia un animalista, uno di questi qua? Sì, può essere pure. Sì, forse, sì. Adesso che mi ci fai pensare, forse sì. Vabbè, comunque però verificheremo. Non lo sapevo, chiamiamolo. No, guarda, ti dico una cosa. Io gli ho subito scritto, guarda, sì, io mi sto mangiando un panino con la porchetta, spero che non capiti niente qui a Terni. Perché, no, oddio, no, vorrei... mangia, continua a mangiare, ottimo il panino, no, con la porchetta, stupendo. Che io, meravigliosa la porchetta. Io ti dico, ma perché? Cioè, perché io non ho capito che c'è di male a mangiare il panino, no, con la porchetta. Io non la mangio perché non mangio porchetta. Vabbè, perché sei ebreo, che c'entra? Sì, non c'entra niente. Ma vi potrò mangiare un panino con la porchetta senza che nessun animalista mi rompa i coglioni o no? Puoi mangiare anche le cavallette col cioccolato. Mi posso mangiare un bel pollo arrosto o no? Posso morire perché mi mangio il pollo o no? Perché i polli sono gonfi di schifezze, voglio morire, ho deciso di morire, non mi rompete i coglioni. Il pollo, la faraona ripiena, meraviglioso. Oh, ma stiamo scherzando. Basta, vabbè, verificheremo. Gianni, grazie. Antonio da Napoli. Antonio, io Cruciani. Sì, dimmi, Antonio. Sì, sono io. Ah, dai, forza. Buonasera. Buonasera. Signor Adolf Hitler. Come, non ho capito, scusa. Signore Adolf Hitler. Ma chi è il signor Adolf Hitler? Scusa, che vuol dire? Grande. Sono un grande suo ammiratore. Se sei animali, un ammiratore lui, di Hitler, sei da ricovero immediato. Animali. Nel 1933 fece una legge contro la vivisezione. Signor Parenzo lo sa? Non lo sa. Scusi, non mi devo arrabbiare perché il medico mi ha detto in questi giorni. Vabbè, non me ne frega niente a me di Hitler se era vegetariano o non era vegetariano. Ma lei è idiota? Sì, questo ci voleva. Come? Non ho capito. Che è successo in Nepal? Animali e uomo. Cioè hanno fatto... Unica cosa. Cioè, è stata una giusta punizione questa qua. Sì. Cioè, milioni di animali muoiono ogni anno per una stupida... Ma lei è idiota? Aspetta, e allora? E allora? Ha fatto bene. Cioè, ha fatto bene cosa? Ha fatto bene la natura a mandare quel terremoto lì? Sì. Un po' di pulizia. Perché gli animali muoiono, gli umani non devono morire? Faccio Vabbè, capire, Antonio, no, innanzitutto tira fuori quel maledetto auricolare e parla normalmente, perché sennò sentiamo poco. E non te lo dico più. E non te lo dico più. Non te lo dico più. No, non stai parlando normalmente. Togli l'auricolare, togli il microfono. Avvicinati normalmente al telefono con la bocca, se no sentiamo mi un po'. Mi sente, signor Parenzo? C'è Parenzo? Sì, c'è Parenzo. C'è, Antonio, ma la manda a fare il culo in 40 secondi. O stai facendo una provocazione del stupida, oppure se veramente pensi che siccome ammazzano gli animali per un rito... Io sono grande amico di signor Rizzi. Vabbè, ma sei amico di Rizzi, quello del Partito Animalista Europeo, ma chi se ne frega? Sì, sì, sì, sì. Chi se ne fotte? Vabbè, Antonio, mi hai rotto le scatole, ciao. Ciao. L'amico Benedazzo aveva scritto Nepal, una nazione che organizza periodicamente un massacro di 500.000 animali per un festival musicale. Bovini, caprini e ovini, oltre a tanti altri tipi di volatili, sono decapitati brutalmente e lasciati morire agonizzanti davanti agli occhi dei loro simili. Il terremoto che hanno appena subito, pensate che sia casuale? Allora, questa qua è l'ultima versione di Benedazzo. La prima versione era se lo sono meritato. No! Benedazzo! Molte pizzichiamo, no, amico mio. I don't want your car. I want your... Allora, Luciano dalla provincia di Vicenza, dai. Buonasera a tutti. Io volevo intervenire riguardo l'intervista che avete fatto a Zamparini. Sì. Dove dico che sono pienamente d'accordo con lui nel fare le celle negli stadi e di arrestare quei 3, 4, 10, 100 esagitati che sono l'1% di chi va allo stadio e vuol vedere sì, ma questo partita, lo si dice da anni, è da anni che si dice bisogna arrestare l'1%, gli altri sono esagitati, bisogna eliminarli, il ma problema, siccome alla fine tra leggi che permettono delle scappatoie, tra delinquenza che ritorna abitualmente, tra il calcio che offre esempi pessimi eccetera eccetera di vis e quant'altro, non si riesce ad eliminare questo fenomeno, ci vogliono provvedimenti drastici. Allora io una vita che dico come palliativo, fuori innanzitutto appunto ogni striscione, ogni possibile oggetto contundente, non si deve portare più nulla, prima cosa. Seconda cosa, certo, che è il vero provvedimento da fare, siccome questi qua occupano degli spazi fisici, perché sono gli stessi poi, alcuni sono fuori e non possono entrare, altri delinquenti sono e occupano degli spazi fisici, bisogna togliere lo spazio fisico, ma non è complicato, bisogna destinare questi settori per due anni, almeno due anni, io addirittura direi per una generazione, ai bambini. Poi non, speriamo che non vada a finire come quei bambini che intonano cori assurdi, esatto, di insulti, però va bene, meglio gli insulti, diciamo, che le pietrate in testa. Questo è il punto. Se non si prendono provvedimenti drastici di questo tipo, togliendo almeno quello che si può togliere, cioè il territorio, non si arriverà da nessuna parte. Allora, in un comune settimo torinese, il sindaco cosa ha deciso di fare, caro Parenzo? Ha deciso di dire, insomma, ha detto ai suoi concittadini: mi raccomando, cercate di accogliere qualche profugo anche a casa vostra. Cioè, aprite privati, aprite le case, le vostre case, se avete spazio, accogliete i profughi. Una follia, naturalmente, nessuno lo farà. E guarda che il sindaco fa chiamare direttamente a casa. Cioè i funzionari del sindaco, davvero? chiamano a casa le persone, cioè, dicendo, prendono l'elenco e chiamano le persone, le scelgono prima. Guarda che senti che cosa è successo. Senti. Sì, buonasera, casa. Sì? Sì, salve, qui il comune, è tutto a posto per quella storia dei profughi, allora viene a casa sua. Prego. Sì, è tutto a posto con la storia dei profughi, ne abbiamo trovato uno che deve venire a casa sua, qui è il comune di Settimo. Cazzo, uno a casa mia. Sì, un profugo, 35 euro al giorno, tutto a posto? No, non so niente, io ho la moglie che non sta bene, ma stiamo scherzando. Ho capito, però il comune ha bisogno di piazzare questi profughi, abbiamo deciso di portarne uno a casa sua, 35 euro al giorno, va bene? No, non mi va bene. Aspetti un attimo che le passo il funzionario, un attimo. Pronto? Sì, buonasera, ufficio tecnico del comune, dottor De Vincenzi, tutto a posto? No, tutto a posto no. Allora, guardi, sono qui con Ahmed, ragazzo simpaticissimo, 32 anni, vaccinato, a posto, che ha... Lo so, scusi, sì, stiamo arrivando, diciamo che arriviamo per cena, per le 20. Ma no, ma guardi che io c'ho la moglie che non sta bene. Grazie, so che ha già parlato con il mio superiore, sostanzialmente. No, io non ho parlato con nessuno. Beh, mio superiore... Abbiamo passato la telefonata, il superiore, il dottor De Crux, mi ha chiamato prima. Ma adesso un minuto fa. Sì, il dottor De Crux mi ha detto tutto a posto, allora io alle 20 e 0... No, ma io non ho detto tutto a posto, io la moglie che non sta bene, faccio fatica a star dietro la mia moglie, ho 80 anni, come faccio? Sì, ma la macchina ormai si è messa in moto, quindi noi arriviamo lì. Si è messa in moto, ma io non scherziamo. Le può dare una mano anche, è bravissimo, ha 30 anni, vaccinato, perfetto, ha un figlio, può far lavorare anche il figlio ha 12 anni e sono in due, padre e figlio, perfetto. Ma chi padre e figlio? No, le ripasso il direttore, guardi, perché non voglio stare a discutere, le ripasso il direttore. Allora, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera, allora il comune ha deciso di distribuire nel territorio di Settimo i profughi. Lei sa che c'è l'emergenza profughi, no? Tutti devono dare una mano. Lei non sarà mica razzista? Sì, ma se io ho già dei problemi da solo con mia moglie, con mia sorella, che gli devo stare dietro perché ha 92 anni. Ho capito, avrà una stanzetta per questo profugo, no? Ma potrei anche averla, ma come faccio io che devo stare 24 ore dietro a mia moglie? Ho capito, ma questo profugo le può dare una mano? Ma quale mano? Ma io devo far da mangiare? Ma per sua carità, io sono già nei pasticci così. Vabbè, lei non sopporta i profughi, ho capito, non sopporta i profughi. No, non è vero che io non sopporto i profughi. Io sono stato sempre in mezzo ai profughi, cioè tutti gli immigrati. Ma quando uno ha già dei problemi per se stesso, come faccio? Vabbè, prendiamo atto, però è una vergogna questa cosa. Nessuno vuole ospitare questi profughi, è una vergogna. Mi scusi, ma lei a dare della vergogna a chi non conosce nemmeno, come può permettersi? Io ho 80 anni. Mia moglie sta cammina da problemi di deambulazione, devo stare dietro a mia moglie. E noi come possiamo fare a piazzare questi profughi? Me lo dica lei, come facciamo? Ma signori miei, ma io non lo so, ma questo è un sistema che non mi sembra che un comune può permettersi di mettermi una persona in casa senza sapere la mia situazione. E noi qualche volta, in qualche modo dobbiamo fare, caro signore, vabbè, comunque, prendiamo... Ma io lo capisco che in qualche modo dobbiamo fare. Prendiamo atto, grazie. Prendiamo atto, grazie. Che razzismo che c'è in giro, che razzismo. Ma quale razzismo? Ma non si permetta di insultare la gente. Che razzismo che c'è in giro, lei odia... Lei non sopporta i profughi, vergogna, non sopporta i profughi, una vergogna, comunque vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, lei mi dica come si chiama intanto, che sta insultandomi. Il dottor De Crux. Va bene. Grazie, arrivederci. Che razzismo che c'è in Italia, ragazzi, c'è un razzismo veramente incredibile, eh? Cioè la gente non accetta i profughi a casa sua, questo c'ha... hai problemi? Vabbè, beccati un profugo lo stesso. Beh, però quello poverino c'ha un problema. Ho capito, però c'è una stanzetta libera, c'è l'emergenza profughi, accettasse. Ma potrà farsi aiutare, si può far aiutare dentro casa. Sai, a proposito di legge elettorale, ragazzi, fermatemi con i messaggi quando vi rompo troppo le balle sulla legge elettorale, eh? Quando vi ho fatto una testa così sulla legge elettorale, ne parleremo brevissimamente su questa cosa della legge elettorale, fermatemi subito. Allora, ho scovato, caro Parenzo, un messaggio di Renzi del 15 gennaio del 2014, dunque praticamente non era ancora premier. 15 gennaio 2014, sì. Legge elettorale, le regole si scrivono tutti insieme se possibile, dice, farle a colpi di maggioranza è uno stile che abbiamo sempre contestato, io non so come andrà a finire, però certo, se ci dovesse essere, no, è una contraddizione rispetto a quello che ha scritto Renzi, nel gennaio 2014 e che diceva anche prima. Civati è con noi, buonasera. Come andiamo? Conosceva questo tweet di Renzi di qualche tempo fa? Come no? Mi ricordo anche che aveva 336 preferiti e 231 retweet. Come mai? Perché i tweet sono più importanti della Costituzione ormai. I tweet più importanti. Vabbè, non mi dirà mica Civati che. A parte che Parenzo, ho un sospetto che questo qua potrebbe essere l'ultima telefonata che facciamo con Civati. In qualità di PD, dici? O no? Oppure resta nel PD anche se passa l'Italicum? Diciamo che spero che non sia l'ultima telefonata. No, quello diciamo va bene. Che è un passaggio che potrebbe essere drammatico, nel senso che state dicendo, insomma, non solo per me, per altri che stanno cercando l'ultima mediazione, il tentativo di discuterne, vediamo come va a finire, no? Tanto ci sentiamo anche settimana prossima nel caso per commentarlo. No, d'accordo, però se passa l'Italicum, certo, se passa l'Italicum così com'è, diciamo, no? Come sembra, vai via dal PD o no? Beh, diciamo che se non ci vado via io mi ci mandano. Beh, no, mi ci mandano, no, perché me... No? No, ecco, ma no, forse vediamo. Se non voti la fiducia... Ti... Voto fra una settimana, io non la voto la fiducia, quindi ho già detto... Bisogna vedere se la mettono. Voto... Secondo me la mettono domani, ma... La mettono e sicuramente non la voti su questo testo. Io non la voto e voto contro l'Italicum, per tutta una serie di ragioni, sì, che annoiano, poi ti mandano i messaggi se le spiego. No, no, mi annoiano, vabbè, ma andiamo secondo... Un rapporto molto... Mentre il rapporto tra noi due in questo momento è diretto, con Parenzo che ci sente e che può intervenire, l'Italicum è un sistema che allontana moltissimo i cittadini dagli eletti, secondo me. Insomma, no, ma adesso qualche cosa la spieghiamo invece, perché qualche cosa va spiegata dopo la pubblicità. 800 24 00 24. Beh, amici miei, siamo al top, siamo veramente al top. La Zanzara. Tu sei uno strumento nelle mani del demonio. Allora, molti ci stanno scrivendo, siete ignobili con quel vecchietto, eccetera, quello di 80 anni. Amici miei, è uno scherzo, è un gioco, no? Sia chiaro. Tra l'altro è un test per verificare, ne è uscito anche bene il signore, perché non era uno ostile, diciamo, agli immigrati. Anzi, era piaciuto, aveva i suoi problemi, le sue robe. Aveva i suoi problemi a casa, con la moglie, con la sorella, eccetera. Stiamo a scherzare, su, dai. I tell you first, it's harder than it looks, it's a long way to go. qui alla Zanzara questa sera il deputato. Da dove? Da dove? Da Roma, da Milano, non so da dove. Sono a Torino. A Torino, vale la terza. Sì. Il deputato con la canna in mano, una meravigliosa immagine della scorsa settimana che ho apprezzato moltissimo. Ma non c'era il fumo dentro, dai. Come era, no? Una canna vera, certo, una canna vera. Anche se non lo fumo. Non l'ho accesa, quindi non so se esatto. Ma marijuana o hashish? Ma non lo sa. Marijuana, no? Noi dobbiamo fare la legalizzazione della cannabis. Marijuana buona, buona. Bravo, bravo, bravo. Un'assemblea con bravo. Un sacco di gente espertissima. Cosa buona e giusta. Anche se, non, anche se non la fuma, ha detto, ma una nel passato te la sei fatta. Non mi ricordo se ce l'hai detto una volta. Te la sei sì, fatta? Sì, sì, è che non mi piace molto l'effetto che fa, devo dire. Sul mio corpo agisce in modo strano. Ma fino a che età? Fino a che età te le sei fatte le canne? Ma ero ragazzo, ero giovane, insomma, fino ai 30 anni, cioè, più o meno. Ma non, fa... non, sono una non sono mai stato un affezionato consumatore. Ma tra i deputati, secondo te, c'è gente che si fa le canne? Secondo me l'hanno provato. Ma secondo me sì, ma l'hanno provata tutti. C'è un'ipocrisia su questa cosa. Quella foto con la canna in mano ha fatto il giro del mondo come se avessi, non lo so io. Sì, vabbè, come se avessi ragione, commesso un delitto, come se avessi detto ai giovani fumatevi tutti le canne. Nessuno dice una cosa del genere, cioè perché nessuno ma può no, dire... ma infatti. Ma nessuno però dice agli solo... altri fumatevi le canne. Semplicemente c'è una battaglia che si conduce da diversi anni, che alcuni condividono, altri no, giustamente. Non è che uno dice che chi è per la proibizione è un delinquente. Semplicemente ci sono due diverse tesi. Civati ne sposa una, che è quella della legalizzazione. Sì, perché poi presentavamo il lavoro parlamentare dell'intergruppo sì. Per la legalizzazione, insomma è una cosa molto seria. Ma tu diresti a tuo figlio di provare le canne nella vita? La mia figlia è talmente piccola che mi fa un po' senso, però io penso che la proverà e le consiglierò di comportarsi con misura sempre, di non esagerare. Del resto io sono un fumatore, del resto mi piace il vino, per cui insomma... Cioè tu dici fa più male l'alcol di una canna? Più che altro è l'uso smodato, diciamo, che non va mai bene. Cioè l'alcol... L'alcol, beh, l'alcol dal punto di vista sanitario è considerato più pericoloso della cannabis. Sì, più pericoloso della cannabis. Cioè se tu, sì. Tua figlia, davanti a un bicchiere di whisky o una canna, dici se proprio devi scegliere fate una canna. Non lo so, spero di non avere di fronte. C'ho già un sacco perché? Di dilemmi con Renzi, ti rispondo fra qualche anno. Ah, Renzi forse per rinsavire dal tuo punto di vista dovrebbe fumarsi uno spinello o no? Gli non farebbe bene o no? Secondo me gli farebbe bene fermarsi un attimo ogni tanto, non so. Magari con uno spinello si rilassa, ma non lo so. Fa rilassare. Forse si può rilassare, tutta sta accelerazione, che poi gli vengono esatto. Male le cose. E ti dico, lo spinello potrebbe aiutare, guarda. Perché... davanti al caminetto, davanti, con la davanti a Palazzo Chigi, pensa allo spinello a Palazzo Chigi, sarebbe questo pazzesco. Non credo. Però, sarebbe traumatico. Sarebbe traumatico, sì. Però dimmi una cosa, sì. Io non capisco perché tu consideri l'Italia come una sorta di atto eversivo, spiegami. Perché lo consideri? No, io non ho mai parlato, io non uso questi toni, cerco di usare i toni coerenti con quello che poi faccio. Secondo me è un sistema elettorale molto sbilanciato che si coniuga con una riforma costituzionale che è pasticciatissima. Vabbè, è semipresidenziale, dai, è una cosa in cui c'è l'elezione diretta. Però bisognerebbe spiegarlo bene, diciamo. Allora, se fai le 20 anni che ne parliamo. Semipresidenziale, sì, ma sai che in questi 20 anni ne abbiamo fatte già due di riforme elettorali, oppure di sì, parlarne sì. Abbiamo già fatte. No, ma in generale questo riforme, tormento. Sì. No, però se si vuole semipresidenzialismo bisogna fare in modo che, come in Francia, il Parlamento non dipende immediatamente dal Presidente, no? Siamo sì. D'accordo. Invece in questo caso abbiamo messo insieme tutto, un po' la rinfusa, nomine bloccate, più le preferenze che scattano solo per chi vince, chi perde già solo i nominati, sì, abbiamo sì. Una soglia che è cambiata, adesso è fin troppo bassa, verrebbe da dire, pensando al bipolarismo, no? Ci sarà un grande partito, quelli che perdono si sminuttano. Vabbè, è un pasticcio, cioè, secondo te, ma una cosa antidemocratica, io non credo se tu la consideri una cosa antidemocratica. No, io non penso che sia antidemocratica, è, come dire, lontana dai principi di una democrazia parlamentare. E allora perché vuoi uscire dal PD se passa questa roba? O ma pensi io ce ne ho... No, però io ho sempre spiegato che oltre alla questione della riforma costituzionale ed elettorale, che comunque sono importanti, io ho un sacco di problemi su tante altre questioni, capito. Dalla scuola al lavoro. Però tu dici Italia, mettere la fiducia, per esempio, è una cosa che manco Berlusconi l'avrebbe fatto, mettere la fiducia sulla legge elettorale. No, se l'avesse fatta Berlusconi, a questo punto non mi avresti trovato al telefono perché ero a fare un giro tondo in piazza San Giovanni, no? Mi spiego. Cioè, sì. No, questo è vero, questo è vero. La fiducia sulla legge elettorale è una cosa che se l'avesse fatta Berlusconi. No, solo De Gasperi nel 1953 sulla legge chiamata truffa, che era meglio dell'Italicum, tra l'altro. Sì. Incredibile, si chiamava truffa, ma. Ma secondo te, dimmi sinceramente una cosa. La consideri un po' una legge truffa anche questa, allora? No, questa è una legge che mortifica il Parlamento, che sbilancia il sistema, è una legge che non premia il rapporto diretto tra i cittadini e gli eletti. No, sì, è più, guarda, la cosa, non vorrei usare un'espressione più morbida, però è veramente un pasticcio. c'è una cosa fatta male di cui poi diremo il peggio fra qualche anno, ti ricordi col Porcello? Beh, Renzi dice invece che così. Renzi dice che la prenderanno a modello in tutta Europa, nel mondo addirittura. Ma non lo so chi, a me sembra che lui abbia messo insieme tipo una chimera, pezzi diversi, un pezzo francese, un pezzo tedesco, un pezzo inglese, abbia fatto una cosa che chiama Italicum e che in realtà è fatta a sua immagine. Obbrobrium, come la possiamo ribattezzare? Obbrobrium, non è male, l'obbrobrium non è male, considerato poi che bisogna che vinca Renzi, perché se poi Renzi perde ci ritroviamo Salvini o Grillo, insomma. Auguri, vabbè, ho capito, però poi... quello saranno gli italiani a scegliere, amico mio. No, perché il problema è che le opposizioni Cruciani, è proprio lì il punto, che tu devi considerare di vincere ma anche di perdere. Allora, sì, chi vince ha i superpoteri, chi perde, come dire, vede ridimensionata la propria azione, sì, in modo clamoroso. Questo non va tanto bene, secondo me. No, il sistema parlamentare, allora cambiamo il sistema. Beh, è un sistema però che molti italiani hanno sempre voluto, cioè chi vince comanda, sì, e per 5 anni gli altri se la pigliano in quel posto. Cioè, di solito quelli di destra, però, tipo Fini, diciamo, il sindaco d'Italia, era una battaglia del giovane. Vabbè, ma anche voi nel passato. No, noi abbiamo sempre, guarda, a me piacerebbe un sistema come il Mattarellum, che adesso è tornato di moda, che c'è il Presidente della Repubblica che se lo inventò. Ed è un sistema in cui ci sono i collegi, sì, in cui, sì, i parlamentari si confrontano tra di loro, vengono scelti dai loro partiti con le primarie, chi è più popolare ha un radicamento territoriale, se fa delle pirlate sanno, sì, dove abita, e invece così l'Italico è un sistema molto lontano dal Mattarella. Ma spiegami una cosa, ma Mattarella come lo consideri in questo caso? Supino a Renzi in questa vicenda della legge elettorale? Ma no, penso che sia arrivato a riforme già fatte, non può fare nulla. La Repubblica precedente a lui che ha fatto, come dire, ha partecipato, cioè, molto attivamente, quindi lui ha voluto uno stile, cioè, diverso. Se però, passa insomma, il PD, se passa il PD, se, sì, passa la legge elettorale, tu hai detto finisce anche il PD perché ci sarà questo partito della nazione imperante, eccetera, eccetera. Sì, ma cambia i connotati del Partito, certo, Democratico. Ecco, ma chi la vota, perché, sì, pare che la voti Verdini, mi fa piacere, però insomma, se cambia le maggioranze, una volta si andrà al Presidente della Repubblica. Ma ormai, sai, questo, no, è siamo in anomalia, in una situazione anomala da 4 anni. Diciamo, l'ultimo eletto è stato Berlusconi, diciamo la verità. Diciamola tutta, l'ultimo eletto è stato Berlusconi. Senti, ma io non ho capito, allora, se preferisci essere cacciato o preferisci uscire da solo? No, preferisco uscire da solo. Per cui se passa l'Italicum esci? No, non l'ho detto, vediamo come va sta settimana. Vabbè, ho capito, ma che deve succedere? Se passa l'Italicum, altrimenti cade il governo. Tu ti auguri che cada il governo, sì, a questo punto. Ma perché deve cadere il governo? Lo dice Renzi, lo dice ma Renzi. Se l'Italicum verrà modificato, non cadrà il governo, è una follia. Cioè, non è che adesso, cioè, tutto dipende, ci sono se tante non passa altre l'Italicum, dice Renzi, cade il governo. Lucia, te lo dico fra una settimana, vediamo come va sta settimana. Tanto cosa ti cambia a te? No, a me non mi cambia niente, figurati. Figurati se mi cambia qualcosa. No, facciamo, ti ripeto, bagagli, valigie, ma no, da tempo che volantini. Io sono in difficoltà, ma questo è vero, questo è vero, lo sanno tutti, questo è vero. Diciamo che l'Italicum potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso, diciamo, no? Il vasum. L'obbrobrium non è male, però, l'obbrobrium, non l'Italicum, l'obbrobrium. Senti, ma un'ultima cosa, ma tu vorresti i coffee shop in Italia, come ad Amsterdam, in altri posti dove... Guarda, può... adesso la frontiera nuova è quella della condivisione, diciamo, tipo social club, che è il modello spagnolo, mi sembra più interessante. Io però sono affezionato al modello della legalizzazione piena dell'Uruguay. Cioè, che sì, lo so, ma che succede poi nelle strade in Uruguay? Cioè, lo Stato vende la marijuana? Beh, in effetti c'è un controllo medico-sanitario, però c'è anche un rapporto liberale, quindi la marijuana è legalizzata e a determinate condizioni può essere commercializzata, non dai singoli privati, ma insomma, può essere coltivata dai consumatori, può essere messa in condivisione la piantina con quella di altri in un social mamma mia, 700 Giovanardi, mamma mia. Ma Giovanardi proprio non ci sente, però sai, dopo io scopro, come ho scoperto oggi, l'ho scritto sul mio blog, che ci sono ragazzi che magari hanno la piantina per la mamma, non solo per sé, che non sta bene, e vanno e rischiano la galera. No, l'ho letta una notizia di oggi pubblicata al sito di Antigua. A me sembra un po' eccessivo, ecco, quello che voglio dire è ci sono delle libertà personali, ci sono anche dei valori economici in gioco sulla legalizzazione, perché sappiamo che qualcuno se ne approfitta ed è la mafia, quindi... No, no, ma figurati, un passaggio, un esperimento si potrebbe fare. Va bene, grazie Pippo, ciao, presto, ciao. Allora andiamo a Bologna, Elisabetta, vai. Ciao, dimmi. Cruciani, ciao Parenzo. Io ti chiamavo per questo motivo. Allora, partendo dal presupposto che ritengo che i due animalisti intervenuti questa sera in trasmissione non sono animalisti, ma folli. Ma ho capito, sono animali, però anche questa cosa qui, no, sono folli, è come sempre animalisti sono, è gente che magari con cui parlavi fino a ieri e che ti diceva le stesse cose e non ti stupivi, non ti, no, ma non si può prendere tutta la categoria a prescindere, ma non c'è una categoria, c'è gente normale, gente fuori di testa, questa è gente fuori di testa, ovviamente, però chissà perché tra vegani, animalisti eccetera, c'è gente che considera, si parte sempre dalla, come dire, dall'inizio, no? Questi considerano gli animali uguali agli uomini, che hanno la stessa dignità. Certo, anche c'è un sacco di gente che li considera uguali senza arrivare a quegli eccessi. Però la strada è quella, eh. Quando tu pensi che gli animali abbiano la stessa dignità degli uomini, Il rischio è di arrivare a dire: siccome li ammazzate, allora prendete per il terremoto, capito? Come punizione divina. Ecco, questo è da folli, cioè, ovviamente la vita dell'uomo non può essere. Vabbè, che volevi dire, Elisabetta? Non ho capito. No, semplicemente che secondo me non è corretto definire gli animalisti come persone che tutti fanno di tutta l'erba un fascio di base, perché ho capito perfetto, animalista ma non la mangi la carne, tu la mangi la carne volentieri e sono contenta, la mangi la carne, allora che animalista io sei, la mangio io la carne. Beh, ma questo non vuol dire che siano giustificate stragi di animali in Nepal o stragi di animali di levrieri in Spagna, maltrattamenti gratuiti verso gli animali. Bisognerebbe andare verso una cultura che aiuti, perché capisco che ci sono delle tradizioni in paesi che hanno una cultura, secondo me, arretrata su questo argomento. Ho capito, ma se hanno questa tradizione in Nepal della mattanza degli animali, una volta. Allora se una vabbè, di ho capito, persone, la ma non è la stessa cosa, dai, su, non è lo stesso. Allora, scusa, ma nessuno vuol dire che è una bellissima tradizione. Ottima, meravigliosa la corrida, stupenda. Adoro la corrida, adoro la corrida. È gratuito verso un animale, questo non c'entra. Adoro la corrida, adoro la corrida. Non ci sono mai andato. Questo è il tuo pensiero. Ma mica sono un delinquente perché adoro la corrida. Fermi tutti. Anche la corsa Pamplona. Pubblicità. Sì, ma dai, fatti bravi. La Zanzara. Allora, Daniela da Roma, Daniela? Sì, ciao. Ah, sei Daniela Martani. Sì, visto che mi hai citata, caro Cruciani. Cara Daniela, come stai? Bellissima Daniela, bellissima, sei bellissima. Sì, grazie, sei. Caro Cruciani, visto che ti interessa ma tanto delle devi persone, rimorchiare, no? Con la radio? Non sto rimorchiando con la radio, se vorresti rimorchiare la chiamerei. T'ho mai mandato un messaggio? T'ho mai chiamato? Daniela? No, non mi hai mai chiamato. Ma ecco, sei un animalista. Mi citi continuamente, quindi vuol dire che sono i tuoi pensieri? Beh, un po' sì. Adesso ogni tanto quando noto i tuoi Martani, tweet, guardo Google. No, guarda, è bellissima. Martani. È una bellissima ragazza. Cioè, sono tante belle ragazze, però è una bella ragazza. Su Twitter la vedi che c'ha in mano un agnellino, se non sbaglio, no? Che hai in mano, stai abbracciando un agnellino, no? Vabbè, sì, perché noi abbiamo fatto la campagna contro la strage degli agnelli. Sì, lo so, vabbè, la strage degli agnelli. No, ti volevo dire che siccome io non ho sentito del tuo programma, però mi hanno chiamato delle persone dicendomi che mi hai citata nella devi sempre ascoltare questo programma, tu devi sempre ascoltarlo, ti assicuro. Mi hai citata nella tua trasmissione accostandomi al pensiero. Non ti ho accostato per nulla. C'è una signora che si chiama Antonietta Meta, a proposito della vicenda del Nepal, ha detto: li mangiano, sì, li ammazzano per la dea che giustamente li ha puniti. E auguro due o tre di queste merde, cioè due o tre di terremoti. Insomma, ho una capito, che ha detto che c'entravo in ma tu non cosa? C'entri niente, assolutamente nulla. Vabbè, mi hai adesso citata, ho capito, ma non sei Andreotti che buonanima è morto, cioè non sei Renzi, cioè, adesso con tutto il rispetto, non ti ho citato. Era un discorso che abbiamo fatto sugli animalisti, in cui mi sei venuto in mente perché ti adoro, ti amo, e dunque mi sei venuto in mente. No, vabbè, comunque, insomma, no, giusto per farti capire, Giuseppe, che siccome tu a te degli animali non te ne frega niente. Ma non è vero che non me ne frega niente. Sì, vero, caro. Posso interessarmi degli animali senza essere come te? Giuseppe, scusami, però tu ami così tanto le persone, no? Perché questo, diciamo la verità, tu sei un filantropo. Però non sai i danni che tu crei al pianeta mangiando la tua carne. Oddio, perché tu devi sapere che negli ultimi 40 anni il 52% della fauna selvatica è stata decimata. Sì. Cioè, attualmente in atmosfera sono 800, cioè più anidride carbonica che 800 anni fa. Aspetta, ma tu non potresti mai stare con un carnivoro. Gli oceani sono pieni di oltre 400 zone completamente prive di vita a causa dell'inquinamento. Adesso ti lascio parlare. Sai perché così questo, però? Perché tu lo sai che l'inquinamento principale è usato gli allevamenti intensivi. Lo sai tu, che ma tu che scarpe porti? Che dolce? Tipo di scarpe porti? Scusami, Daniela. Non le compro di pelle. Io come non no? Ti ho visto in qualche foto con le scarpe. No, con lo scarpe. No, sono tutte di similpelle. Similpelle. Devo vedere. Ci sarà sicuramente qualcosa che viene dagli animali. Sicuramente ci sarà qualcosa che viene dagli animali. No, perché noi siamo attenti a tutto. Quindi il 70% di acqua dolce utilizzata nelle colture per i mangimi destinati agli allevamenti è destinato solo agli allevamenti, hai capito? Il 50% delle emissioni. Adesso non mi fare la lezioncina, la pippardella. No, te lo devo dire perché roba, tu devi sapere che impatto ha. Ma non ho capito, secondo te questi qua del Nepal se lo sono meritato o no quello che è successo? Ma che cosa c'entra? No, ma è una domanda, rispondi. Ma secondo te se lo sono meritato perché fanno la strage di buoi? E che ne so, magari la pensi come questi, come questi ma pazzi qua. Ma che c'entra? No, non c'entra niente questa cosa. Però io quello che ti voglio dire... No, ma dici, se la sono meritato o no? Ma stiamo scherzando? Che ne so, rispondi, no, magari ma rispondi, no, è una follia, questa qua è una deficiente, questa è una deficiente, dillo, chiaramente. Questo è un evento naturale che nessuno può prevedere, quindi insomma, cioè, è un terremoto, capita e c'è lo spostamento del... Appunto, però il fatto che hanno fatto fuori un po' dei nepalesi, autori delle stragi degli animali, a qualcuno ha fatto piacere, vedo. Ma veramente le stragi degli animali le compiono tutti i giorni, milioni di persone al giorno. Va bene. Adesso io dovrebbe estinguersi il genere umano, per come l'hai pensato. No, però quello che voglio dirti, Cruzano, che mi vuoi dire? È che comunque tu, visto che ami tanto le persone, devi sapere che la tua fettina di carne, quella che tu ti mangi, ha un impatto ambientale sul resto del pianeta. Sì, la metà della guarda... popolazione del pianeta non mangia, perché tu ti devi mangiare la carne, tu e tutti quelli che si mangiano la carne. Il 50% delle... Vabbè, se non ci vuoi venire a fare la lezioncina animalista qua, no, dai. Posso parlare? Per fare un chilo ma di carne... Ma un'altra volta, dai! Per fare un chilo di carne ci vogliono 100.000 litri di acqua, sai che significa? 100.000 litri di acqua. Sono preoccupatissimo, guarda. Sì, non ti interessa? Sono preoccupatissimo, sono terrorizzato da questa cosa. 50 milioni di persone in tutto il mondo. Ma basta con questo estremismo qua, basta. Io ti sto dando dei numeri e te non ti interessa. Ma tu saresti mai con uno che non è animalista? Qual è il problema in realtà, Giuseppe? Che a voi non interessa, a me degli animali, ma neanche. No, ma tu saresti mai con uno che non è animalista? Cioè ti metteresti mai insieme con uno che mangia la carne? Ma mi dice che ti interessa. No, ma è una domanda che ti faccio, dai, su. Cerca di scherzare un po'. Secondo me è disposto a diventare vegano. Scherza un po'. Cruciani, sei disposta a stare con qualcuno? Ma io potrei stare con una persona aperta mentalmente che magari. Vabbè, aperta mentalmente, d'accordo. Ma con uno che mangia la carne potresti stare o no? Oppure... Potrei stare soltanto se però poi è disposto anche a sentire delle motivazioni che magari mi hanno portato a fare questa scelta, perché qualcuno che mi dice no, io a me la carne mi piace, io la mangerò per tutta la vita, non me ne frega niente, non ci potrei mai stare, chiaramente. No, se invece incontro una persona disposta a cambiare, no, non a cambiare, però almeno ad ascoltare. Ma io sto ascoltando. No, non mi sta ascoltando. Ma come no, ti sto ascoltando, dei numeri importantissimi. Però adesso devo lasciare, non ti vorrei lasciare, ma ti devo lasciare. Traffico. Tu che fai quando vai a dormire? Ti sogni traffico. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta La Zanzara. Quella signora, direi di richiamare la signora. Eccoci qua. Button Oran. La persona a la que llama no está disponible. Signora Nassetti, non le daremo tregua per le cazzate che ha scritto. Luca, dai, dimmi. Ciao Luciani, niente, io volevo solo dire che sono d'accordo con la castrazione chimica del buon Salvini. perché purtroppo non c'è altra soluzione. Quella purtroppo è una malattia che non ha modo di essere curata, quindi per evitare ulteriori danni, come purtroppo è anche successo, che gente che ha compiuto atti di questo tipo è stata messa dentro, poi rilasciata e ricompiuto un'altra volta, purtroppo bisogna tornare a punirne uno per educarne 100, quindi... Sì, però Luca, è una cosa un po' seria questa qua, non è che uno può dire castrazione seria, chimica così, seria, alla cazzo di cane. Cioè molto ci sono seria. Studi scientifici che vanno da una parte, che vanno dall'altra, cioè che addirittura si vorrebbe sottoporre volontariamente alla castrazione chimica. Appunto, perché dico che è una malattia, che per quella gente lì è una malattia, non è una cosa che si può curare mettendoli in psicanalisi. Ho capito, ma non è che... E allora cosa facciamo? Io, mia moglie, che viene, o mia figlia, o... qualsiasi altra persona che passeggia in un parco e non può farlo perché c'è quello che gli salta addosso e che può stuprarla, per me è una cosa che, cioè, qua siamo a livello degli animali, capito? Cioè, ormai non... Vabbè, grazie. Massimo, Roma. Buonasera. Dimmi. No, io volevo rispondere a quella signora animalista di cui non ricordo il cognome. Mi sente? Martani. Allora, innanzitutto l'allevamento degli animali... Ma poi a parte che in Nepal hanno ammazzato anche animali, vorrei sottolineare, cioè il terremoto ha ammazzato pure gli animali, non è che non li ha ammazzati, tra l'altro, per cui chi si comunque, è augurato, dire, chi dice tipo... terremoto, viva il terremoto, eccetera, sì, vabbè, questi sono estremismi che veramente non stanno in cielo in terra. Però voglio dire, il vestito di lana che lei si mette serve, voglio dire, è ricavato dall'allevamento degli animali. Sì, può darsi. Io sono un produttore di miele, allevo gli animali, allevo le api. Sì, sì. Bene. Allora io dico, se noi non alleviamo gli animali, al di fuori se mangiamo il miele o non lo mangiamo, ma chi è che fa l'impollinazione? Aspetta, fermi tutti. Alessio Ferrari in diretta da Ibiza. Pure il cognome, mi dici, Cruciani. Ah, scusa, vabbè, Alessio, che ne so, magari non lo volevi il cognome, no? Vedi te. Che ne so, mica sei. Che mica fai il delinquente, scusa. Vabbè, tu che ne sai? Sì, può essere, hai ragione. Allora, Alessio, sì. Sei davanti al bar? Sì, sì. Com'è la signora? Ma non è male, sai? Vabbè, no, questo, non è male. Ma non è che ti chiedevo questo, vabbè, scusa. Ragazzi, mica radio porno, però. Allora, aspetta un attimo, che vogliamo fare? Patrizia Nassetti, animalista di quelle No, però sai cos'è, Cruciani? Cioè, ma io cosa faccio? Entro, gli do il mio telefono in mano? No, digli, scusi, mettimi signora. Metti la voce, vai, fai l'intervista. No, aspetta. E poi non si sente bene, Cruciani si incazza. Dobbiamo pensarla bene, Daniele. E Alessio, scusami. Alessio Ferrari. Non dire il cognome. Scusa, dai. Alessio da Ibiza, dai. Ma avete scritto il nome là sopra, ho detto così, Alessio. No, perché non gli hai detto tu al telefono quando ti hanno chiamato di non dire nome e cognome, dai. Comunque, non so che voi fate come la polizia. Ma che come la polizia? Perché sei Ibiza, tu sei tra quelli che sono scappati a Ibiza da problemi, vari problemi. E tu che ne sai? Sì, può essere. Meglio così. Allora, io direi una cosa, tu avvicinati un attimo, tanto sì. Non paghi niente, cioè, ti abbiamo chiamato sul cellulare spagnolo. Si chiama Patrizia. Però vabbè, non è importante. C'è una persona che ti vuole salutare dall'Italia, fai così. C'è una persona che ti vuole salutare, e noi facciamo finta di essere Parenzo, parla tu una volta che te la passi. C'è una persona che ti vuole salutare dall'Italia. Patrizia, c'è una persona che ti vuole salutare dall'Italia. Mi passi il telefono. Tu fai il gruppo. No, siamo del fronte animalista. Grazie per questo. Capito? Facciamo così, dai, proviamo così, tanto è uguale. Vai. Allora, gli dico che stavo ascoltando una trasmissione alla radio e chiedevano per piacere di andare qua. E io gli dico che però io non ne so niente. No, digli che c'è uno del fronte animalista che va a fare i complimenti. Dai. Sveglia, amico mio, forza. Vabbè, che sei pagato per questo. Ah, no, non è vero, poverino, non è pagato. Avanti. Ciao. Tu sei Patrizia, per caso? Io stavo ascoltando una trasmissione alla radio, chiedevano se qualcuno vive a Ibiza, se potevo venire qua e passarti il telefono. Posso passartelo, però ambasciatore non porta pena, questo è il mio telefono, non è che si fanno incazzare meno avanti. Ciao. Pronto? Ah, signora, salve, sono del fronte animalista. Volevo farle i complimenti più vivi e sentiti per questa cosa straordinaria che ha scritto su Facebook. Grazie. È il primo che lei mi dice così. Sa che ho avuto minacce, cose tremende? No, ma non mi dica. Ma cos'è che ha scritto? Perché io ascoltavo quella trasmissione immonda. Con quel cretino lì, non mi ricordo mai come si chiama, Crucani. Ma insomma, invece io ho visto questa cosa che lei ha scritto, straordinaria. Cioè il terremoto... La ringrazio. Ma cos'è esattamente quella frase che mi ha colpito? Cioè che il terremoto ha portato via, no? Ha distrutto? Se lo sono meritato, no, insomma. No, io non ho detto che se lo sono meritata. Io questo non l'ho mai detto. Io ho detto che loro fanno delle stragi di milioni di animali. Certo. Cioè milioni, milioni, milioni. Io ho pubblicizzato oggi su Facebook la fotografia di quello che loro fanno. E questo e terremoto... allora ho detto che siccome non c'è la punizione divina, questa volta il karma ha colpito. Punto e basta. Punto e basta. E in fondo se lo sono meritati, perché con tutta la cattiveria che hanno con gli animali, per me l'animale è uguale all'uomo, anzi, prima l'animale c'è per me e poi l'uomo. E poi l'uomo. Beh, meno male che c'è gente in giro così, meno male, perché c'è tanta cattiveria, questi carnivori che poi sono violenti, chi mangia la carne è persona violenta, cattiva, o no? Ah, guardi, dovrebbe venire uno tsunami adesso in Cina, in Cina dovrebbe venire veramente uno tsunami, veramente. Comunque, guardi, ma ha mai pensato di candidarsi, ad esempio, fare una bella lista? No, guardi, non mi candido, anche perché io sono venuta a vivere a Ibiza perché esco dall'Italia da una situazione drammatica. Se lei sapesse che cosa mi è successo... No, per carità, non voglio sapere niente, non voglio sapere niente. No, perché... si parla di animali. Si parla di animali? L'OIPA mi ha sequestrato in Italia... 14 animali dicendo che io li maltrattavo, addirittura hanno scritto che ho seppellito un cavallo vivo. E invece non è così. Beh, ma certo che non è così. Il cavallo si è sentito male, è venuto il veterinario, i certificati medici, ho i certificati di chi l'ha seppellito, ma siamo impazziti. Beh, ho capito, ma questa roba della Cina, perché in Cina ci sono tutti questi cani, mangiano i cani in Cina. Li mangiano, li fanno, li scuoiano, li bolliscono vivi. Ci vorrebbe, io tutti lei dice, i video. Anche io lì tutti ci vorrebbe, video, tutti i video. Li bolliscono vivi, li mettono nell'acqua bollente vivi. Ci vorrebbe anche lì un bel terremoto anche là. Sì, ci vorrebbe uno tsunami lì, uno tsunami anche lì. Vom, via, infatti. Mamma mia, mamma mia. Va bene, grazie. Ma sa che è veramente una personcina speciale lei, comunque, questo volevo dire. Mi venga a trovare qui a Ibiza. Però ci sono anche dei bambini morti lì in Nepal, questo è un po'... Beh, no, effetti collaterali. Purtroppo, lo so, Pur di salvare gli animali, Purtroppo i bambini ci rimettono sempre per gli adulti. Per colpa degli adulti, certo. Hasta luego, allora. Hasta luego, hasta la victoria anche, tanto. Crusani? Sì. Oh, Crusani, ma visto che ti ho invitato, vieni, eh. Sì, vengo. abito sopra un bordello. Vabbè, siamo al top. Alessio, tu perché non ci fai le cronache da Ibiza? Le cronache da Ibiza. Sei il numero uno, hai fatto un pezzo eccezionale. Ti abbraccio fortissimo. Dai, chiamami tutti i giorni. Ciao, Crusani, ti abbraccio fortissimo. Ciao, vecchio mio. Ciao. Attento al DDT, sai? La zanzara. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Un po' di sesso, Rocco Siffredi e Cicciolina che puzzava di capra. Cicciolina era molto presa dalla politica, quindi io queste scene pazzesche con lei non le ho mai fatte. Sì. Però lei aveva un problema, voleva assomigliare a Cleopatra, la bellezza che non svanisce mai, sì. Si lavava col latte di capra. Purtroppo questo odore terribile faceva... Sì, ma è la verità, e lei lo sa. Io mi sono permesso di dire in un'intervista che era molto complicato fare sesso con Cicciolina perché che era si sentiva molto l'odore. Era un bagno a piuma. Guarda. Puzzava di capra. Scopava con Cicciolina quando era al telefono con chi? Io ero sotto, lei era seduta sopra. parlava con Marco, mi ha detto: Ilona, dammi un minimo di... Poi prendeva Craxi, poi prendeva... perché c'era tutto il periodo. Quindi lei è stato anche con Craxi? No, e per interposta, sì. Ma com'è possibile fare sesso mentre uno è al telefono con un altro? È bel lavoro. È lì che dura. Sì, ma non si vedeva nel film che Cicciolina era al telefono? No, perché inquadravano solo me e il mio datore di lavoro. E il datore non aveva problemi? No, perché lui era connesso con me, non eravamo molto connessi con Ilona, che era in un altro mondo. Ma è vero che ha detto che ha perso la vista per troppa masturbazione? No, Parenzo. Parenzo, no, ma che c'entri tu? Ma concentrati un attimo, cazzo, ti perdi. Di Rocco, ogni tanto ti metti a guardare. Quando uno fa la radio, ti voglio dare questo insegnamento dopo tanti anni, nonostante tutto. Quando uno fa la radio, non può mettersi là come fai te a consultare. Devi stare sul pezzo, concentrarti. Notizie, ma non ho capito, ma di chi parli però. Rocco Siffredi. Con la e che ne so io di quello che ha detto. Dice che ha perso la vista per troppo. Ma mica l'ho visto a Chiambretti ieri, che ma, ne so. A parte io, che non è ieri, è venerdì, ma buon venerdì. Dai, forza su, dai. A me piace volare, quindi pilotare elicotteri è il sogno mio. Avevo letto però anche il pugile, può essere? Pugile anche, però poi in realtà no, ho problemi agli occhi perché mi sono tolto la vista da ragazzino per eccessiva masturbazione, ma non è un gioco. Ma quindi è vera la cosa che la masturbazione... Su di me ha funzionato. Lei è diventato cieco per... Ho meno 12 al destro in questo momento. Malgioglio, quanto meno... le manca lei, mi scusi? È meno... No, voglio sapere quanto manca Malgioglio. Mangioglio che l'altro giorno ha fatto 70 anni. Andiamo ancora. Beh, sono un Siffredi super hard qua, eh. Senti. Con le MILF, cosa si può fare con le MILF? Si tratta di donne che ti fanno divertire e non hanno più l'inibizione sessuale di una volta. Chiediamo. Oggi lo squirting, molto praticato da tante donne che prima non esisteva, sì, è legato a una donna che conosce, sì, se stessa e ha deciso, sì, di avere un orgasmo aperto senza aperto doverlo, sì, reprimere come era prima. Non entrare nel dettaglio, onestamente. Vabbè, è una sorta di libertà sessuale. Senta, è bello Rocco. Con Barbara D'Urso lei riuscirebbe a fare del sesso se ci fosse l'occasione oppure no? Alla grande. Alla grande? Sì. Barbara, una bella donna, una super MILF. Una super MILF, cioè una donna di una certa età. Oggi vanno di moda solo le MILF. Devo dire che le teen stanno perdendo un po' strada perché le donne mature oggi la gente vuole concretezza. E perché? Si vuole divertire. La gente vuole. Beh, è vero, arrivate con anni di ritardo, amici miei. Non dico a Rocco, ovviamente, che è sempre in anticipo su tutti. Però arrivate, amici miei, con anni di ritardo. Ho scoperto queste cose, le MILF, eccetera. Anni or sono. Adesso c'è la moda, tutti con le MILF, tutti con le persone più anziane, tutte con le persone. Calma. No, però la litizzetto, no, ti prego. No. Siffredi ha detto che si farebbe pure la litizzetto. Parlo così come parlo. E invece la letizzetto va dritta. La letizzetto va dritta, però se l'affronti un po' troppo la destabilizza. A me è successo di incontrarla e non gli sono piaciuto molto. Lei riuscirebbe ad andare con la letizzetto? Perché no? Per un film sì. Cioè lei andrebbe con chiunque, scusi. Anche sono con un professionista, riesco a farlo con qualsiasi anche donna. Anche un temperino. Va bene, andiamo a Campobasso, Giancarlo. Anche a Campobasso la Zanzara, Giancarlo, vai. Ciao, buonasera. Vai Giancarlo, dimmi. Adesso è difficile intervenire perché avete fatto due o tre interventi splendidi, ci stiamo reggendo la pancia con mia moglie per le risate e invece ero incazzato per quell'intervento con quel signore a cui proponevate l'affidamento di un 32enne di suo, sì, ma era un gioco, cioè, ragazzi, ma come ve lo devo cioè ve lo devo spiegare in aramaico, in quale lingua ve lo devo spiegare? Non è proprio il vostro stile, siete, ma noi non è che possiamo controllare quello, potevamo non mandarla in onda, ma era chiaramente un gioco per far capire che in alcuni paesi i sindaci chiedono, sì, di ospitare i profughi nelle case dei privati. Qui era, sì, peraltro bravissimo, tra l'altro era anche io volevo dire solo una cosa, Cruciani, che di notte io ascolto la radio e sento queste trasmissionacce radiofoniche. Quali? Di stronzi che si accaniscono contro persone anziane, eccetera. Non le fanno dormire, che succede? No, ho trovato, capito, che quel signore è stato eccezionale per civiltà, per educazione, eccetera, e quindi ho trovato un po' gratuito, capito, l'aggressività. Comprendo lo spirito della trasmissione, per carità, vi seguo, però ecco, ripeto, dopo questi interventi, insomma, sono un po' spiazzato, lo riconosco. Vabbè, Giancarlo, ciao. Alessandro da Roma, vai. Alessandro, sì. Dimmi, dai. La signora Martani, che insomma fa l'animalista, prima era una passionaria dell'Italia e poi è diventata, insomma, un personaggio del Grande Fratello. Io in realtà l'ho vista un mese fa mangiare del sushi in un noto ristorante di Trastevere, insomma molto costoso e molto alla moda. E vabbè, sushi, ho capito, adesso io lo riferiremo, ha mangiato se sushi, ma non vegetariano, si... non lo mangia il sushi. No, no, no, no, anche i pesci sono tra magari tra le però specie mangiava il riso, verdure, edamame, wasabi, che ne sai te che mangiasse pesce? Pronto? Sì, chi è? Professore? Sono Cruciani, sì, ciao. Chi è? Poi, ciao, dimmi. Come va? Bene, bene. Saluto Parenzo che ciao, professore. Parenzo. Saluti, ciao, dai. Ciao. Senti, professore, che è successo con questa storia di quarto grado? Perché ti sei indignato così tanto per questo video dell'arresto di Bossetti? Mi ha fatto veramente incazzare, male. Ti ha fatto incazzare, dai. Ma diciamo. No, incazzare no, perché sono troppo greve l'affermazione. Proprio sono rimasto veramente amareggiato e indignato per come possa essere trattato un cittadino, insomma. Che spieghiamolo un attimo, hanno mandato in onda durante la puntata di quarto grado di venerdì il filmato con l'arresto del signor Bossetti, giusto? Esatto, ma era allegato agli atti praticamente, era una cosa sì, va bene, allegato agli atti, ma questo non significa che dovesse essere pubblicato, c'era un divieto di pubblicazione anzitutto. Ma questo vedremo. No, beh, è previsto dalla legge, fino a che l'udienza preliminare non è consumata, e venerdì non era consumata... il documento non era... Ma cosa non è che ti ha fatto indignare? Scusa, spiega. L'atteggiamento così non solo trionfalistico, ma insomma soprattutto di umiliazione della persona, perché cioè, lo hanno messo alla gogna, dici. È giusto pure che sia umiliata una persona se magari ci sono dei risentimenti a qual caso, in ogni caso ci possa essere preoccupazione che sia armata, che sia pericolosa o quant'altro, però questo deve rimanere un fatto dell'ufficio, il quale si comporta doverosamente facendo che battaglia genere. È la tua adesso, cioè quella hai denunziato tutto innanzitutto la mia battaglia ma è una grande trasmissione quella, ma per queste cose è che per queste cose bisogna trovare la giusta misura, e certamente quella di violare la privacy di una, oltretutto la privacy di una persona è cosa che io non tollero. Cioè, è stato messo alla gogna Bossetti, è stato messo alla gogna. Non c'è ombra di ma dubbio. Era il filmato dell'arresto, punto. Ma no? Il filmato dell'arresto rimane il filmato, sapete che c'è una norma che vieta la pubblicazione. Ma hai fatto denunzia te? Hai fatto denunzia? Certamente, ho fatto denunzia anche per violazione della privacy, perché c'è una norma specifica per quanto riguarda gli arresti delle persone e l'ammanettamento, che è stato minuziosamente mandato in onda, che si configura come violazione della privacy perseguibile d'ufficio, per cui chi ha dato il video a chi lo ha mandato in onda ha commesso violazione della privacy. Chi l'ha mandato in onda ha fatto una ricettazione. Ma che ricettazione, ma non succederà nulla, lo sai Carlo, perché hai fatto quale ricettazione? Non mi sembra che il conduttore Nuzzi sia particolarmente spaventato. Che in questo paese non succeda nulla, nemmeno in queste situazioni. Io mi auguro che qualcuno abbia ad avere la stessa mia indignazione, ma più che indignazione, veramente amarezza. Ma scusa, ma Nuzzi è un grande professionista della nostra civiltà. Ma che adesso quarto grado ha mostrato il degrado della civiltà. Dai, su. Certo, certamente. Ma scusa, ma Nuzzi è un grande professionista. Nuzzi è un grande professionista. Nuzzi è un grande professionista. Io ritengo che il giornalismo d'inchiesta e il giornalismo giudiziario sia un fondamentale della democrazia. Però ha fatto una cazzata, dici tu. Ha fatto una cazzata. È l'unico modo di controllare questo tipo di magistratura che ci ritroviamo, però questo non significa che lo Stato debba rispondere alla illegalità con la illegalità. Il cittadino deve essere rispettato nelle carceri, poi nelle carceri anche nelle condizioni in cui la libertà personale viene fortemente compressa e doverosamente compressa. Ma tu non è che sei incazzato perché non ti invita a quarto grado, no? Ma che me ne frega a me, ma figurati un po' che me ne frega del quarto grado e dell'invito a quarto grado. Come ho sempre detto e come ho sempre fatto, quando ho trattato di discutere, di trattare questioni a livello pubblico, l'ho fatto volentieri e lo farò sempre volentieri. Questo cosa, un'altra cosa che a me non rimpiccolite una cosa così importante in un certo tipo, magari sei incazzato, ma Gianluigi è stato con me, sono 25 anni che ci conosciamo, abbiamo fatto più battaglie insieme. Ma scusa, tu a quante trasmissioni hai partecipato di questi casi, anche magari speculando, hai portato la Franzoni, hai fatto di tutto, quindi... David, hai ragione. Sono anch'io, però guarda, ti voglio dire una cosa. E loro hanno mandato in onda un filmato, avevano una notizia e l'hanno data, amico mio? Non è problema di notizia qua. Innanzitutto questa è la prima volta, ricordati che c'è un solo precedente, quello di Enzo Carra, quando fu mandato in onda il suo arresto. Vabbè, hanno fatto una porcheria secondo te. Avanti, basta. Allora, diamo atto che è stata fatta una porcheria, che qualcuno se ne renda conto, che chieda scusa, non a me. Professore, hai addirittura denunciato, dai, la denuncia. Ma che te frega a te? Ma perché hai denunziato? Come che me ne frega a me? Ma io sono un cittadino che potrebbe essere sottoposto allo stesso trattamento, primo. Secondo, io... Secondo me, tiro del culo, tiro del... Siccome io sono un avvocato e gli avvocati, contrariamente a quello che hanno fatto gli avvocati di questo processo, ma gli avvocati di Bossetti erano lì, ma erano lì gli avvocati di Bossetti, erano lì. Hanno fatto schifo. Perché anzi, ti devo dire... Aspetta, avvicina la voce, che non si sente. Ho chiamato Salvagni e anche gliel'ho anche detto. Non si sente, avvicina di più con la voce al microfono. Chiamato Salvagni e gliel'ho detto. Prima ti sei indignato, poi stranamente dopo mezz'ora di trasmissione hai detto che invece si trattava di un documento che poteva bene andare in onda. Questo non è un comportamento lineare. Cioè, hanno fatto schifo sti avvocati. A me non è piaciuto. Hanno fatto schifo. Comunque secondo me tiro del culo perché Nuzzi non te chiama. Ma a me non me ne frega proprio niente, non me ne frega assolutamente. Io tanto bene, faccio il professionista, faccio l'avvocato. Voglio andare in sessione ci vado, punto e basta. Ma lo prenderesti adesso il mandato di Bossetti, eh? Come? Lo prenderesti il mandato di Bossetti? Ma che c'entra? Ma che... No, ma è una domanda! È una domanda! Ma io difendo chi mi chiede di essere... No, ma lo prenderesti il mandato di Bossetti? Lo prenderesti o no il mandato di Bossetti? Oddio, ormai è abbastanza massacrato, per cui non so fino a che punto converrebbe. Ma comunque si tratta di altre cose. Ma insomma, perché mettete sullo stesso piano cose assolutamente diverse? No, ma sono due cose diverse. Vogliamo ammettere che c'è stata veramente una cosa indegna di un paese civile, sì o no? Ma adesso vediamo. No, chi se ne frega. Poi ci saranno i magistrati, l'ordine dei giornalisti, che vedremo che viene fuori. Vabbè, t'abbraccio, va, ciao. Grazie, ciao. Saluti. È sempre incazzato il prof. Cosa pazzesca. Matteo da Taranto, vai, 800 24 00 24. Beccato. Professor Taormina, il quale professore si è indignato perché c'era... Vabbè, ragazzi, vai. Dai, su, dai. Matteo, vai. Sì. Dimmi. Buonasera. Che vuoi? Senta, io con chi parlo, con Cruciani? Sì, fino a prova contraria, sì. Apposta, e con lei volevo parlare. Apposta. Mi meraviglio come una persona come lei, che è così molto ascoltata in radio, faccia parlare questi animalisti del cazzo, no? Perché sono animali che paragonano addirittura gli animali superiori alle persone. Amico mio. Perché bestemmiano che è successo una disgrazia nel Nepal, dove dicono che questi qua addirittura è una cosa che è successa, che è una punizione mandata da Dio. Quelli bisogna solamente sopprimerli, non farli parlare mai, perché quelli prendono piede quegli animalisti. No, fermo, bisogna farli parlare sempre. Ah, bisogna farli parlare? Sempre. Perché bisogna farli parlare se mi parlano un animale a una persona? Per far incazzare te e per far incazzare me. Ciao amico mio, ciao. Ciao. Allora, c'è una straordinaria scoperta, mi sembra un po' esagerato però, di un signore olandese che si chiama Mark Stukenbaum, il quale ha scoperto, in realtà non è una scoperta, è una trovata, è una, come dire, una mattana, un oggetto che ha creato, un dildo con le ceneri dell'amato defunto. Ah, mancava. In questo modo sarà possibile ritrovare l'intimità perduta. Mancava. Perdere una persona amata, un compagno di vita, cambia irrimediabilmente una persona. Il lutto è doloroso e spesso il tempo lenisce solo una parte della pena. I ricordi dell'intimità mentale e fisica fanno male, ma possono essere anche una consolazione. Questo signore ha creato un modo davvero unico per aggrapparsi al ricordo del proprio amato defunto. Si tratta di un giocattolo sessuale pensato proprio per le vedove. Il dildo contiene le ceneri del marito. Mia. Capito? Si Brilliant. Possono ritrovare le sensazioni di intimità. Il prodotto è chiamato 21 Ma grammi. Ma che necrofilia pure, dai. È una vera e propria scatola sensoriale che promette un salto nel passato. Vado a difendere i rom. Ci sentiamo domani 18:30, ciao. Fischia la fine e è finito. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sì, ma dai, fatti bravi. Radio 24. La passione si sente.